vedranno una discrezione anche sul podcast di un colloquio di gruppo. Tipo oggi c'è. Ciao, sono Scatta e non vado ai colloqui da altri. Tipo quella di oggi era i due dipendenti, ne devi licenziare uno. Boh, uno è uno che sta lì da 10 anni, ma è uno stronzo. E non comunica con gli altri, non passa le sue conoscenze, però fa da solo bene, più del 50% del fatturato del tuo gruppo. L'altro invece è giovane, è volenteroso, comunica con gli altri, eccetera, però un po' deluso nel primo progetto che gli è stato assegnato. Chi licenzi? Il vecchio. Va bene, adesso ti sistemiamo. È una risposta. Non c'è la risposta giusta, tipo, sì, è sì, solo per farti vedere come ragioni. Va bene, dopo questa, diciamo, fare introduzione, vi diamo il benvenuto al terzo episodio di Coloni. Si chiama Il Teschio Dimenticato, se l'ho scritto giusto. E senza ulteriore indugio, andiamo via a una sigla scelta da Catta. È arrivato anche il suo lavoro, sì. Siamo indietro. Questo era la data più bella, cioè, l'Europop, l'Europese, sono un po' in buttata da via, cioè, il trovato questo video. Conosci Small Town? Anche un gioco per noi. Matte. No, io la montagna bellissima. Ho smesso. Ho solo due. Questo era. Ne hai già scartato. Sì, devo già scartare. Va bene, direi che è come stare. Sì, okay. Ma no, finiamo. Sì. Ok, benvenuti al terzo episodio di Coloni. Un po' di lande. Questo perché lo fa invece? Non si sta. C'è un po' di merda di cambiarlo. Anche se noi non ci vediamo, non è fondamentale. No, ci vediamo. Perché non ci vediamo? Fatta, puoi metterti anche gli occhiali. No, le lenti oggi. Semplicemente. Dovete. Oppure non ho voglia di vederti. Non devo mettere il microfono. Non ci vediamo. Okay. Questo lo possiamo anche prendere qua. Dai, non così. Non per la felicità del nostro ascolto. Va bene. Allora, nell'ultimo episodio. Sceo è morto. Ah no. Sceo è morto. No, non è vero. Va bene. Allora, non abbiamo avuto sconto. Questo è Titan Raiders. Il podcast è quello di Rick GDR ed è il podcast più segnalato alle forze dell'ordine. E ci potete seguire seguito anche dall'America, non so, qualcuno sicuramente sì, ci sarà il doodle di Google, in realtà ci ho pensato dopo. Ci vabbè, potete seguire su Tycoons and Dragons, la pagina Facebook di RGDR, sul blog. È complicato farla di schiena che di fronte. È più complicato farla di schiena che di fronte. Ah, il disegno della fanciulla, cose a caso dette da Salla. Vabbè, ognuno ha la sua posizione preferita. Esatto. E poi sul podcast che ovviamente conoscete, che è quello di Giuliette. Questo, come dicevo, è il terzo episodio di Coloni. Giochiamo a Dungeons and Dragons versione 5. E edizione. Questa è la nostra e direi che qualcuno di voi mi fa il riassunto. No, io non c'ero. Las, potresti fare il riassunto, in effetti. No, è la prima volta nella tua vita. Qualcuno deve fare, raga. Io l'ho fatta l'altra volta. Merda, raga, ma non è tipo una roba tipo interrogazione. Cioè, io, basta. Vai, bravo show. Vai, catta. Catta. Allora, finalmente siamo salpati dopo le nostre prodezze al porto di. Palla. Perché Sala non è anche stato preso in considerazione? Perché sei lui sta facendo il disegno. Da adesso in poi disegno anch'io. Allora. Tanto era merda il disegno. Sono dei problemi tecnici. Ragazzi, cerco bambina di schiena su Google. Sì, non lo fai. Bambina di schiena. Dopo essere riusciti con successo ad imbarcare la fantomatica cassa a bordo della nave, sì, abbiamo ricevuto il plauso abbastanza modesto, a dire la verità, del capitano. Il capitano Tarren, sì, che non sembrava particolarmente interessato al contenuto. E poi c'è qualcosa che... Che cosa c'era nella cassa? C'erano varie cose, delle stoffe, ma soprattutto... delle ciotole e un tizio. Esatto. Di nome Holm, che è era un tizio abbastanza paranoico, che ha soltanto con aprendo la bocca irritato Giulio. Ah no, ma questo è normale. Sì, Giulio direi che salutiamo Giulio che ci segue da non si sa. La prossima volta per assunto lo fa lui, così vediamo se ha seguito su Facebook. E Volne è arrivato lì sulla nave e ha detto: ah, vorrei imbarcarmi. Il capitano ha detto sì, ok, così come neanche chiedergli chi sei tu, da dove vieni, quindi boh, ma vabbè, affari in una cassa. L'importante è che ci hanno finalmente, abbiamo salpato e ci hanno accompagnato a È vero, se non lo sai tu, cosa? Alla prossima tappa, isola di Eric. Se non lo sa lui, si chiama così. Sull'isola di Eric, è vero. Vabbè, avete conosciuto due nuovi personaggi. Il proprietario anche dell'isola. Anche perché uno era morto. Abbiamo conosciuto il proprietario dell'isola, Eric. Ragazzi, bambina di schiena su YouTube funziona, su Google funziona. Taglia. Ok, quindi la polizia stacca. Arriva da te. Allora, le una spiegazione. Cazzo capisce, abbiamo una spiegazione che ci consentirà forse di salvarci in tribunale. L'episodio passato si chiamava La fanciulla del promontorio e quindi Salla vuole fare una illustrazione di questa fanciulla sul purtroppo promontorio. Purtroppo è scorso. Ma... sta cercando immagini porno, questo però non ci riguarda in modo diretto, noi altri esponenti di Fecco, ci dissociamo da queste quindi ricerche. Appunto, noi siamo arrivati in sto porto a Ripville e parlando con i tizi in una locanda ci hanno detto: ah, la notte c'è questa figura spettrale che si aggira sul promontorio. Cazzo, sta bambina è bellissima. Va bene, prego solo Katta che era o al tramonto o all'alba. All'alba. Quindi è una cosa troppo spooky, dovete andare a vedere. E noi abbiamo detto sì, perché no. E siamo arrivati lì e abbiamo trovato questa sotto l'evidente effetto di sostanza allucinogene. Perché ci ha tipo detto: ah, vorrei tanto andare al mare che stava giù da quel precipizio, quindi nonostante uno avesse proposto di buttarla di sotto, l'abbiamo gentilmente accompagnata fino alla scogliera sottostante. Non dico che la mia sia una grande storia, però raccontata da voi sembra la cosa più brutta che sia mai stata. Assumiti le tue responsabilità. La bambina ritorna. Beh, te la cerchi, chiedi il riassunto. Cose, noi ignoravamo sul promontorio. Andiamo sul promontorio e davanti a noi ci appare la visione che la stavamo facendo anche apposta. Con questa sottoveste leggera mossa dal vento. Vabbè, adesso non è che mi devi annoiare la gente. Allora! Vuoi riassunto, vuoi annoiare la gente. Vuoi riassunto, bravo cazzo. Siamo arrivati ai piedi di questa scogliera dove abbiamo trovato una grotta con sopra un'insegna luminosa con scritto EXP. E quindi ci stiamo preparando. In effetti. Che bello masterare voi. E con un piccolo altoparlante. C'è una continua ispirazione. Un piacere giocare con voi. Ma raga, per chiunque ci ascolti vi invito a seguire anche comincia a sentire scontro. Dicevo, per quelli che ci ascoltano suggerisco la visione degli ultimi due episodi della stagione di Zeros. Che sono allora, se belli. Sei qua per fare cross-selling, Vi consiglio anche un'ottima crema idratante, si chiama la Saladin. Se ti sponsorizzano, consiglio tutto quello che vuoi. Sponsorizza, l'ho fatto io. Allora ci devi pagare tu. Di quello che hai. Pagaci per occupare questo spazio. Bene. E quindi iniziamo nel migliore dei modi, tirando l'iniziativa. No, allora, ci ho provato. Se vi ricordate, come forse in modo confuso diceva Katta, vi trovate appunto all'ingresso di questa grotta. Anche tu sei tornato a giocare ai Pokémon. C'è l'evento. C'è l'evento. C'è l'evento, è vero. Siete all'ingresso di questa grotta. Giulio ha acceso la sua... ha tirato un incantesimo di luce sulla sua lancia e state appunto per avventurarvi in questa grotta perché questa fanciulla sostiene che praticamente ci sia qualcuno che la chiama da lì e vuole entrare dentro. E in qualche modo vi ha convinto perché voi pensate che questa faccia parte di un qualche tipo di leggenda e lì possa trovare la sua libertà, però non avete capito bene perché o per come. Fatto sta che state per entrare quando Giulio si blocca. Tra parentesi, saluto tutti i partecipanti alla sessione che non prevedono Giulio Bosi, io Andrea Giacomo Vecchi, Stefano Gamberoni, Enrico Catabriga, Luca Lazzarini e da Marsiglia Edoardo Saladini. Tornando invece all'avventura, Giulio si blocca. Arian, cosa succede? E proprio lo vedete con una faccia sofferente. Non sarà un espediente narrativo? No, un altro espediente narrativo, no! Lo vedete con una faccia sembra proprio una faccia di quelle tipo come il personaggio di Arci quando aspetto ha avuto la diarrea. Qualcun altro. Ma non ha la diarrea, tranquillo. Solo un fastidio, no, scherzo. Fastidioso proprio io. A un certo punto dice Giulio, sembra darla su e con fare infastidito dice la via mi è interdetta. Dovrete proseguire voi. Vabbè, percepisco qualcosa. E se voi siete sordi a queste cose, siete sordi all'energia e alle grandi divinità, ma io no, a differenza tua soprattutto, e guarda Sceo. Io sono cieco, mi hai aperto. Avrebbe tutto. Detto esattamente la stessa cosa. Sì, se fosse stato qua. Sì, perché Giulio sia qui. Va bene. E dice no, purtroppo la via non potrò seguirvi per il momento, non potrò seguirvi, dovrete proseguire voi. Non mi faccio certo fermare da certe superstizioni. Cercate di non farvi uccidere come quell'altro. Ah. Questo è Giulio, questo l'avrebbe detto davvero magari. Ok, come vuoi. Beh, aspettaci, guardaci le spalle. Vuoi, in cima al promontorio, guardaci le spalle. Non mi faccio certo dare ordini da un cieco e sordo e muto, però a quanto pare purtroppo non abbastanza muto. No, dice, fastidioso Giulio. No, ti dice, e non mi faccio dare ordini da te, ma vi aspetterò qua, nel caso di pericolo tornate indietro appena possibile. Bravissimo, grazie. Hai ragione tu, fai come scegli tu. E cercate di trovare la via all'interno, senza il mio aiuto. Ovvero senza luce, perché non sarò con voi. E la mia luce sono un cazzo di le tue cure. Può illuminarmi lo scudo. Aspetta, potrebbe, ma è Giulio. Tu credi tu nella tempesta e in tutto quello che accidenti. È? No. Accidenti. No, per baccoglio. Tu sei un mentitore, tu per Giove. Quel dio miscredente, ma oddio, come può essere miscredente? Quel dio inutile. Vabbè, nessuno di noi ha una torcia tipo io. Sì, avete la lanterna schermabile presa da Adene. Grazie, Adene. Non sapevo se aveva recuperato tutto, l'altra volta non avevo capito. Quello sì. Ma però hanno buttato l'olio per accendere. Vabbè, qualcuno di noi ha dell'olio. No, vabbè, dai, potete avere per accendere la lanterna. Ok. Però qualcuno di voi dovrà portarlo. Ok, qualcuno di voi non abbia delle torce nella cosa che probabilmente io non posso avere la luce. Allora, ho delle torce. Sembra un po' un controsenso. Qualcuno di voi dovrà portare la torcia. Porterò io la torcia. La lanterna. o la lanterna, scelta vostra. Usiamo la lanterna, ce l'abbiamo. Però la lanterna. Usiamo la lanterna e prendiamo la torcia. Vabbè, io se posso preferisco avere le mani libere. Porterò la torcia. La lanterna! La torcia è schermabile. Esatto. Va bene. Chi va per primo? Quello con la luce. Di sicuro io. Beh, come Dio di sicuro tu? La facevo più pronta, signor. Ma esatto. Con tutte le cose che ha affrontato non avrà paura di questa caverna. Quando ero giovane. Ah, capisco, la solita cosa dei vecchi. Sono vecchi quando fa caverna. No, no, no. No, scherzo, la capisco. Stia dietro lei, è meglio. Potrebbe essere pericoloso. Vabbè, non esageriamo. Però. E guardi il cellulare. Beh, io indico lui e gli propongo: andiamo avanti io e te, e tu illuminaci. Ecco cosa. Va bene, si può fare. Vai, tu sei agile a scrivere. Lo trovo un po' offensivo, messer Halfling. Halfling. Halfling. Halfling. Lef. Posso toglierti? Signore, ha preso la sua pastiglia. Taci. Ma posso essere tipo il suo badante, una cosa del genere? Tipo ogni tanto mi avvicino, tutto bene, signore. Tutti i nostri personaggi si beccano benissimo, comunque. Vabbè, è una mezza battuta questa. Io rispetto in realtà gli anziani. Ma non è questo gioco. Ma non Salla. Stavo gli anziani, no, ma ho conosciuto ma infatti, Salla. Infatti gli ho detto, stia sul retro, è meglio, potrebbe no, essere quello che... Okay. Non so chi sia. Okay. Non so chi sia. Il mio vecchio personaggio lo idolatrava, questo neanche lo conosce. È vero. Sono estremo all'alto. Molto bene. No, io entrate, quindi lui... chi è che entra per te? Io lui e lui subito dietro. Tipo sta così. Illumino così i nemici li vedono meglio. Va bene. No. Non illumini noi, illumini dove stiamo andando. No, pure ci mette la lanterna qua, così ci acceca e intanto avanziamo. Siccome io sono una persona pigra, non mi ricordo quanto fa di luce una lanterna. Saranno i classici. No, e quindi so useremo abbastanza. Dovrebbero essere 30 di luce normale, 30 di luce fioco. 30 metri? No, 30 piedi. 30 piedi vuol dire 9 metri. No. Lanterna schermabile, una lanterna schermabile con un'intensità la... in un raggio di 9 metri, luce fioca per ulteriore 9 metri. Nel mentre la ragazza per 6 ore con una lampola da mezzo litro. La esatto. Ragazza, è vero, la ragazza in realtà è voi mentre state decidendo vi rendete conto che è già entrata. Se posso, lo dico, tu che ce l'hai, puoi con un'azione ridurre la luce a un metro e mezzo fioca, schermandolo. Okay. Vi rendete conto che è già entrata e Giulio praticamente dice: vi muovete, la state facendo andare da soli. Merda, allora o stai dentro o stai fuori. Se tu fossi meno cieco, piccolo Alvin, capiresti. È lui il cieco. Aprimi gli occhi. Solo dei parassiti della società come voi possono entrare parassiti senza problemi. Della società, che cosa? È interpretato da Dio, Giulio. Credo che Yak stia avendo sopravvento ancora una volta, secondo me, in qualche modo. Però Yak, non lo so, è un parassito della società, non è una cosa che lui lo dire. Beh, un modo per muovervi senza motivo lo troverebbe, sì, secondo me. Vero, sì. Comunque, sì, direi a seguiamola. Sussurro un aspettaci. Allora, ragazza, nel senso, fai tardi. Ti aspetterà se ti muovi, cieco. Sa che sai il PG di Giulio muore stasera. Scusate, raga, ma quanto è bello fare la parte di Giulio più fastidioso. Ho come l'impressione che il suo PG morirà stasera. In realtà è lui lo scontro di stasera. Esatto, alla fine ci stanchiamo, torniamo indietro e pestiamo. Va bene, entrate in questa caverna. Dovete provarci, stronzi. Allora, praticamente la caverna, una parte della caverna è occupata dall'acqua, ovviamente. Quindi voi praticamente camminate nell'acqua. Quella in alto, quella in basso. Ma non sull'acqua, fino a prova contraria, proprio perché, come diceva Giulio, siete un po' non sordi. Non ancora, apro parentesi da Monaco. Non ancora, non ancora. E... Proseguite in questa caverna. È una caverna molto tortuosa. E dopo un po'. Quant'è che è larga? Nata stretta, stretta. Però se seguite un cunicolo, praticamente vi guida la ragazza che sembra avere più o meno un'idea di dove andare. E a un certo punto proprio vi dice: mi sta chiamando, mi sta chiamando. Chi? Mi chiama, andiamo, chi? Andiamo. E rispondi. Io rido da dietro alla fila. La strada che stiamo seguendo ha incrocia eventualmente altre vie che lei ignora. Anche a qualcuna sì, però difficile dire, alcune vedete che proprio finiscono lì e per altre chi lo sa. Però tutto uguale, cioè non è che dici di là ci sembra una stanza o di là. Ma lei più che altro sta seguendo una strada ed è quella. Però scendendo. No, so, più o meno rimanete più o meno sullo stesso livello, l'acqua rimane più o meno sullo stesso livello, in alcuni punti diciamo riuscite a camminare sull'asciutto, in altri ci sono magari delle pozze, perché siete, come ho detto, a livello del mare. Quindi dopo camminate per un po', insomma, qualche minuto, e perdete, diciamo, di vista l'entrata. Quando siamo... Non sentiamo più voci in lontananza, quindi... A questo punto no, ma a quanto, cioè, devo... a quanto decidiamo di stare da lei? A 9 metri. Esatto. Diciamo che anche lei ovviamente sembra che debba riuscire a vedere la luce, ecco, perché voi tipo quando siete entrati, lei era già entrata, ma era la lanterna fa 9 metri di luce piena e 9 di fiocco, quindi se noi ci mettiamo a 9 metri da lei è perfetto, vediamo bene lei e un po' oltre. A un certo punto... Gira. Sensi divini. Cosa fa il senso di mantenere un pirata? Non so, un paladino. Con un'azione, fino alla fine del mio prossimo turno, conosco la posizione di qualsiasi celestiale non morto o fiend, che è diavolo, tipo il contrario dei celestiali, demone. Demone? In 60 piedi. No, non so, qualcosa del genere però. Che non sia dietro total cover. Ok, è sotto paladino quella roba lì. Oppure se l'area è desecrata o consacrata. Ok, vabbè, per il momento non percepisci nulla. Non c'è nulla di strano qui, andiamo tranquilli. Ma, certo. Ma a un certo punto tutti voi sentite chiaramente dei rumori di passi. Oh, grande. Dietro di voi. Il mondo. Sono io l'ultimo? Sì. Dei passi stanno arrivando dietro di voi. Li sentiamo tutti chiaramente. Li sentite? Allora io sembrano fare la luce. Allora dico a lui: rimani da questo lato, io proteggo l'altro e vado in coda a lui, che è vicino a lui. Poteva andare peggio. Poteva essere dei pazzi. Vado di fianco a Salla a proteggere, che Ibe a proteggere. Sì. E prendo poi il bastone. Stasera sei sono pronto sulla tela. Fatto una giornata troppo. Tu mettiti al centro, così tutti vediamo. Ma magari è troppo serio. Un po' abbassa un po', non so. No, che ci vedano in faccia. Eccola. La bambina? Da dietro di voi, da dove siete arrivati? La bambina? Sta arrivando. La bambina continua ad andare o si ferma? Ma rimane lì, però guarda in avanti, non guarda indietro. Io provo a parlarle, tanto è una roba che non parlo, dico: bambina, chi sta arrivando alle nostre spalle? Lei fa, mi sta chiamando, dobbiamo proseguire. Ottimo. E dopo che dice questa frase molto, molto pregnante, praticamente voi vedete proprio da un angolo, proprio arriva una luce, cioè vedete proprio la luce che sta arrivando. E davanti a voi appaiono... praticamente sette guardie, sembrano, cioè armati tipo guardie, con lance, scudi, eccetera, e una signora vestita, diciamo, una signora abbastanza anziana, con un vestito lungo, diciamo, da donna di casa, ecco. E loro mi dicono: fermi voi, fermatevi! Fermatevi subito! Cosa state facendo qua? Stiamo accompagnando questa ragazzina. E poi tipo la donna fa... Ah, come si chiamava? Tizia Arabal, mi pare, sì. Ah, Arabal, cosa stai facendo? Cosa ci fai qua? Con chi sono questi signori? Gli altri sono tipo in assetto, dice: cosa state facendo? Perché avete rapito la ragazza? L'abbiamo trovata sulla scogliera che faneticava. Ci diceva di accompagnarla qui. Abbiamo seguito le sue indicazioni, pensando di forse segnarla alla voi sua volevate famiglia. Rapirla forse questi guardiani hanno in mano la testa di Giulio? No, non hanno in mano la testa di Giulio. Non sempre, no, mi è sfuggito, no. Hanno in mano la testa di Giulio. Dico, no, guardi, ragazza, è lì, se è vostra figlia, pigliatevela. 17. Ah, devo prendere i dadi, però. 18. Va bene. E tu cosa hai fatto? Perception. Sì, soggetto. Esatto. Ce l'ho pure, più 3, 12. Va bene. Voi vi rendete conto, chiaramente, questi sono, sembrano essere delle guardie... Di quella famiglia, insomma, di cui avete già visto i vessilli sul diciamo all'ingresso del porto, sì, okay. E o nel porto, insomma, è un po' ovunque, che sono i Flaherty. E la donna, però, fa per calmare la guardia, dice: no, fermi. Penso che sia semplicemente successo di nuovo. Ecco, avete sentito una storia su una ragazza, qualcosa del genere? Sì, è giù al porto. Una leggenda, ci insomma. È stato raccontato che c'era questa leggenda e. Beh, più curiosi che altro, ecco, siamo saliti per vedere. Lei si avvicina a voi, però le guardie sono molto attente. Ecco, non è esattamente così. Arabal è semplicemente una ragazza un po' particolare, ecco. Diciamo che semplicemente c'è chi si diverte al porto a raccontare questo tipo di cose. Ok, però allora dovreste stare attenti, è pericoloso lasciarla da sola. Ah, sì, no, ma infatti eravamo lì, diciamo che semplicemente è il nostro territorio, quindi voi evidentemente non vi siete fatti vedere, e la guardia fa, sì, non dovreste andare sul promontorio, è del territorio dei Flaherty. Non lo sapevamo. Questo si vedrà. Quando dice questo si vedrà, improvvisamente, da un'ombra, praticamente sguscia qualcosa che praticamente tira un'unghiata e fa cadere la testa di una delle guardie. Oh, e poi ritorna. Oh, un'ombra? Da un'ombra, una, tipo da una parete. Cioè, sì, una creatura sembrava demoniaca. È uscita e ha tirato tipo una unghiata, facendo cadere una testa delle guardie che non si aspettava. Ottimo. Oh. E direi che potete fare l'iniziativa. Non la vediamo neanche bene. 20. Allora, 14. Con calma. Oggi siamo fatti di sì, aspetta, non muovete il dado che... Allora, Sceo, 20. Aspetta che lo segno. 14. Bravo. Ma che cazzo, dai. E Salla un cazzo. Salla? Un cazzo. 5. Giulio non c'è. Con quel percezione alto non abbiamo visto comunque la testa di Giulio nel loro sacco. No. Sceo ce lo dice dopo quello. No, pensavo che in questo gioco morissero spesso i giocatori, quindi pensavo. Avevo capito così, scusate. No, ma c'è, solo che te lo dice dopo. Ah, ok. No, pensavo che ogni occasione fosse buona per. Mi aspettavo questo. Ma tu che rilevi queste cose, quindi che cos'è? Non è successo niente. È una cosa divertente. Ok. Infatti ero tutto tranquillo. Ha fatto un verso questa cosa o si è vista solo l'unghietto? Ed è uscito dall'ombra e ha ucciso sta guardia. Voi l'avete visto proprio appena. Va bene. Quando hai fatto ti chiedo più o meno come siamo disposti. Cioè rispetto a loro dove abbiamo visto l'inviata. Allora, la stanza diciamo che... Non so se starvela. Volete disegnare la disegni? No. Fai finta che sia questa stanza. Diciamo che ci sono... Allora, è una grotta. Quindi è una stanza non tanto grande, ma abbastanza bassa. Uh-huh. Con alcuni due o tre punti dove si diramano o dei cunicoli o comunque delle zone, diciamo, degli anfratti, eccetera. C'è un po' di acqua, però abbastanza asciutto questo punto. Quindi facciamo che di là sia dove continuava e quindi dove stava andando la bambina, no? giusto per capirci, noi siamo qui, le guardie e la tizia erano lì, quindi l'ombra è uscita da uno dei lati più in là. Allora, diciamo che voi erate di questa stanza, all'inizio di questa stanza c'erano le guardie, sì. Diciamo, da su uno dei due lati è uscita quest'ombra, vi è parso più o meno dall'alto, okay. È arrivata, ha tirato... La donna è in testa alle guardie. La donna è praticamente alla vostra altezza. Praticamente dove siete lì, siete un po' tutti lì. Esatto, ora sta a Sceo. No, non è una regina. Basta un pezzo. 1,50 m. Quindi, cioè, la donna mi pare palesemente una persona che non sa difendersi, detta come va detta. La donna sembrerebbe, sì, una persona in pericolo. No, come noi, no, certo, però è una donna normale, non è come una guardia che magari può provare a difendersi lei, no, è ovvio. Non sembrerebbe, però vabbè, questa è la mia idea. Sì, sì, sì, no, non sembrerebbe. Allora faccio qualche passo e sto accanto a lei, ma non vedo assolutamente questa cosa che ha tirato un ghiaccio, non abbiamo idea, neanche avendo le torce, le lanterne e tutto, no. Beh, anche le guardie avranno delle torce, immagino. Sì, ha detto sì. Che una luce o due c'è, però non so, non la vediamo proprio. Posso provare a fare un... ragionare... niente, un percezione per provare a vederla, non so. Puoi fare un perception, se vuoi, però vale come azione, direi. Tanto cosa faccio? Tiro una bastonata contro il muro? Puoi preparare un'azione. Beh, provo a individuarlo. Mi metto accanto a lei per proteggere lei, okay. Eventualmente. In realtà ho fatto poco, 11. 11. Non vedi nessuna ovviamente cosa. Mi concentro dove l'unica cosa che noti in questa stanza è che c'è, diciamo, anche una sorta di mini cunicolo che va anche su. Ah. Però non sai neanche se... Cioè, forse ecco, Cade potrebbe bastarci. Piccolo, ok. Però non sai dove finisca, cioè non vedi la luce da sopra, quindi... Aspetta un attimo, scusami. No, non cosa. Andare. Un nanosecondo, verso. Se voglio solo verificare una cosa. Tu puoi muoverti e poi dopo... Sì, aspetta che voglio vedere una cosa, velocissimo. Uso un punto key per usare l'azione schivare. Sostanzialmente... Però devi vederlo. Ah no, no. Mi sa che lo puoi usare come reazione, Asceo. No. No, come azione... prima. Difesa paziente. Deve puoi dirlo, spendere sì. Un punto key per effettuare l'azione schivare come azione bonus durante il tuo turno. Sì, deve dirlo durante il tuo turno. E poi ti dico esattamente schivare come funziona, così ci togliamo il... come si suol dire. 83. E non è come una volta contro uno in particolare, te lo dico. Quando effetti l'azione schivare ti concentri solamente sull'evitare gli attacchi. Fino all'inizio del tuo prossimo turno qualsiasi tiro di attacco effettuato contro di te ha svantaggio qualora tu possa vedere l'attaccante, però. Quindi, cioè, in teoria non so come lo... Scusami, devi vederlo. Dice che ha svantaggio sì. Se lo vedo. Se vedo l'attaccante, io non so se nel momento in cui lui esce per farsi vedere è considerato che io lo vedo o no, non cioè so. In questo momento non lo vedi, quindi non so se cioè non è contro un bersaglio. Ah, ok. Cioè dice ti concentri sull'evitare gli attacchi fino all'inizio del tuo prossimo turno qualsiasi tiro di attacco effettuato bene, contro allora di te ha svantaggio qualora tu possa vederlo. Ma non so cosa intendi. Io se hai preso la sprovvista sì? Non vale, se no sì. Però se adesso... senti l'attacco arrivare. Io sono concentrato sugli attacchi. Adesso di fatto non siamo più presi dalla percezione, immagino. Non siamo presi dalla percezione oggi. Va bene, fatto il tuo turno? Sì, ho preso un punto key del mio. Allora, che urla key, che mi piace. Praticamente, da un altro angolo, dall'altro angolo, dove sono le guardie, e dall'altro riesce angolo. Fuori sta creatura. E in modo molto... senza nessun particolare problema, anzi ghignando, uccide un'altra guardia. Perfetto, e poi... finché uccide le guardie direi che è ottimo. No, siamo e poi, si rinasconde. Il problema è sembra che... apparire, sembra scomparire tipo sopra. Ragazzi, sta fattendo lei. Allora, ha le fattezze di questa roba qua. Quella, il Brock? No. Quello nero. Esatto. Esatto. Motivo, la sua mano. Ora, per voi, per fare un tiro su scoprire sta roba qua, non so come funziona, ma potete farmi un tiro sulla intelligenza? Sì, sì, penso che sì. Un tiro generale. Fate un tiro sull'intelligenza, vediamo. Vabbè, lo facciamo tutti? Sì. 18! 1! Va, un 18 di dado! Saperlo. Vabbè, critico! No, critico? Sì. Vabbè. È da studio. E... Salla, cioè Cabe e... Sirron. Sirron, bravo. E Sirron... vi rendete conto che questo è un demone dell'ombra o delle ombre? E Mister Pirata era un demone, non l'hai visto? Evidentemente non era in, era sotto copertura. È un demone. Poi, come ti ho detto, io non vedi i demoni. Esatto, Fiend, non è un Fiend. Non so, l'ho già scritto. Ma comunque era coperto totalmente. Sì, non ti offendere, non ho guardato, però è un film. In teoria era sotto copertura. Ma se lui è coperto. No, no, no, no. Però non può essere visto. Da... E vabbè, qualcos'altro oltre al nome. E... praticamente è a resistenza a, un qua... a quasi tutti i tipi di attacco e non può essere colpito da e non può essere, diciamo, colpito da attacchi che riguardano il freddo, l'elettricità, cioè il fulmine, in realtà, i danni da elementi o il veleno. Per il resto è resistente un po' a quasi tutti i danni di armi non magiche e ha questa cosa che può muoversi anche tra gli oggetti e pareti, robe varie. Bisogna stare tutti gli oggetti. Cioè, nelle ombre può muoversi come vuole. Un po' come cazzo vuole, soprattutto. Okay. Adesso, quindi, secondo noi è andato. Se la, se, se, ed è molto pericoloso se la, se la luce è bassa o comunque se c'è oscurità. Ecco. Beh, non so, se state pensando, intanto dico. E accendiamo ovviamente tutte le torce, mettiamole verso le pareti e stiamo tra le torce. Sì, al centro della stanza. Non ho capito solo una cosa. Lui è andato verso l'alto? Adesso? Lui è, si è scappato, tra virgolette, verso l'alto? Sì, lui è andato su. Sembrerebbe essere scomparso nella pietra. Ma non è quello che ho visto io? No. A chi sta adesso? Per vedere. Adesso sta a Katta. Ok, quindi io ho tutto infogliato e comincio ad urlare: mostrati se hai coraggio, affrontami da uomo, poi ci ripenso, affrontami da quello che sei. E quindi, mentre gli urlo queste cose, faccio l'azione, preparo l'azione e quando spunta fuori provo a castargli command. Anche se non la vedi? La preparo, quando spunta fuori glielo casto. Vabbè. Cosa fa? Gli comando una cosa, se lui fa il tiro salvezza, e gli dico di venire. Caccolati! Quello che succede... Quello che succede in quel turno di Katta è che praticamente la donna prende Arabal per un braccio e la trascina via correndo. Verso l'uscita. Le guardie l'aspettano un attimo e fuggono anche loro verso l'uscita. Direi. Sta Laz. La io prendo la mia torcia e di fare quello che hanno fatto loro. E non è seguendo la logica che sono diventato quello che so. Giulio, no, fai luce. La spada. Giulio, fai luce. So Giulio, le bright light da 9 metri. Okay. Beh, ne abbiamo, tu l'hai accesa tua, no? Non ancora, non ne abbiamo due per adesso accesa. Ecco, ho capito adesso sì, che sì. Cos'è, quindi al turno dopo di logica lo posso. Sta a Salla. Mi nascondo dietro Katta. Usando il carattere, la cosa da halfling che puoi nasconderti su di uno di tale anche tu sai. Sì. Sì. Però io poi ho fatto in teoria no uno, due. Ho fatto un 20 più 5, 25. No, dove stai nascondendo, scusa? Dietro di Katta. Katta. Puoi farlo perché sei un Halfling. Taglia sì. Più grande, sì. Sì. Anche perché è l'unica cosa in cui ti puoi nascondere adesso, noi. Esatto. Sì, 25, perché andare al buio non mi serve. Vez. Nasconditi al buio. Con un 20 naturale, 25. Ok. Non lo vedo. Entri nell'armatura di Katta. Non fai alterazioni, niente. E sta a me. Deve essermi infilato qualche crostaceo. Allora, niente, quindi il schivare finisce perché è cominciato il mio altro turno. Sì. Non lo rifaccio. E quante torce riesco a accendere? Perché ne ho 10, tipo ne prendo 3 e con un unico gesto le fai di 10 torce. Ma scusa, le accendi a quelle che abbiamo acceso sai noi? Le allunghi così? Non lo so. Bene, lo zaino se ne prendo 3 e accendere una torcia. Sì, beh, ma le abbiamo già accese. Se le prende e le mette contro le nostre. A livello di regola hai ragione, però logica. Nel senso, io nel mio zaino faccio tipo così, ne prendo 3 e le accendo. Come sia perché tu le vuoi mandare in giro. Sì, tipo le butto c'è l'acqua per terra. C'è l'acqua per terra. Ah, è vero. Hai ragione. È vero. Però sai, ci penso io! La bianca tua, là, cosa serve? No, allora non sto. Vabbè, tanto quanto c'è, c'è la lanterna. Ne abbiamo due accese. Perché se la sono portata via. Quindi c'è lui con una due torcia e una lanterna. Sì, beh, direi che siete lì, avete 9 metri. Sì, la luce è indifferente, accendono un'altra, quindi. Tutto il buio. Chiaramente non lo so. Preparo, sì, di tirargli una scarica di fracassata di botte, se non lo so, posso farlo. So esattamente come funziona preparare nella devi attività. Decidere l'evento che triggera la tua reazione. Bello trigger, è molto italiano. Vero. Che può essere? Che può essere quando lo vedo spuntare fuori. Se cade un'altra testa a scarpo. quando ricevo un attacco o quando... Può essere banalmente appena lo vedo l'attacco. Sì. Posso farlo in questo modo? Ammesso che sia nella tua gittata, ovviamente. Beh, sì. Però se hai delle armi da lancio il problema non si può. Esatto. Va bene, quindi hai preparato l'azione che spari, giusto? Sì, tengo in una mano il bastone, nell'altra un dardo. Sì. Che cane che sono stato. Scusate. Va bene. Anzi, il bastone lo metto via o solo il dardo? Passa un turno, praticamente sentite una voce tipo non dovreste essere. È un po' una Giulio? Non dovreste essere qua. L'avevo detto. Siete ciechi. Ok. E poi sta a Katta. Ovviamente non riconosciamo la voce. No, mi sembra una voce però abbastanza debole. Ok. Mostrati un lurido essere affinché io possa mondare il mondo della tua presenza e preparo l'azione di nuovo. Vabbè. Da dietro senti mondare il mondo brutto. Las Salla e Sceo, volete fare qualcosa di diverso? Provo a chiedere se era lui che parlava alla ragazza. La ragazza è andata via. Se era lui che parlava alla ragazza. Ah, chiedi ad alta voce, sì. Sei tu che parlai alla ragazza. E Salla, qualcosa vuoi fare? Oppure io vorrei preparare l'azione. Non so se posso farlo, però aspetta, ci guardo e te lo dico. Comunque è una roba se lui attacca. Ok, quindi direi che passa un ulteriore turno. Almeno che non spunti tu. Mia speranza, non vuol dire. Grazie. Sì, no, vabbè, niente. Cioè, nel senso, non devo neanche prepararla. Se attacca, lo faccio. Sì, in realtà io vi ho detto che lui vi tagliava la testa, però in realtà non è che gli ha tagliato la testa, semplicemente l'ha colpito la testa e poi lui è caduto a terra. Che è rovinato la poesia. Perché non è corretto da un punto di vista tecnico. Ma sono fotte, vedi. Creste precedente. Hai preparato speciale per cui alle guardie riesci a tagliare la testa. Hai preparato Salla? Ha detto che non c'è bisogno di devo posso usarlo come reazione, non c'è bisogno. Adesso le casse rimbombano di scontro. Giusto. Mega... Da sopra di voi appare il demone che prova a colpire la catta o la lanterna, non capite bene, ma non riesce, e poi torna su. Nel frattempo chi di voi aveva preparato può colpire. Quindi in ordine? In ordine scelgo. La domanda è, io ho un dardo in mano, però se lui ha portata di pugni, posso mollare il dardo e scaricarmi di pugni? In teoria... Cioè io ho il dardo perché nel senso, se appare là, non ci arrivo, gli lancio il dardo. Se però se lui è vicino, mollo il dardo. Non direi so. Che sei preparato col dardo, mi tiri col dardo. Io ho preparato il colpire, non ho specificato. Non so come funziona. Quindi pare però... mi sa che devi andare col dardo. Posso fare il dardo in pugno. Il discorso è che non so se è un'azione, con differenza se è un attacco solo che puoi fare, non credo che puoi fare tutto, giusto? Allora, per fare due attacchi ti serve la bonus action, quindi già... Ah, ok, quindi un attacco solo. Però tu hai la Fury of Blows che non so come funziona. Sì, vabbè, cioè tu hai preparato un'azione. Cioè se faccio un punto key posso fare due pugni come bonus action. Ah, allora niente, va bene, puoi fare bonus action, solo un attacco. Cioè, solo puoi vabbè, fare no, se vuoi... Vabbè, con l'altra mano gli do il pugno. Se non ho il dardo, uso l'altra mano. Sì, ma se vuoi lasciare il dardo, lo puoi lasciare. Alla fine interagisci con un oggetto. Scusa, posso usare... Non hai neanche bisogno. Non posso usare l'altro pugno? No, a sto punto mi hai detto che fai così. Scherzando, puoi usare l'altro pugno. Se lo vedo per il culo, dai. Sì, puoi tirare il pugno. 8 più 5, 13, però. 8 più 5, 13... E i tuoi attacchi contano già come bonus seguito? Va bene, lo prendi. Come? I tuoi attacchi contano già come... Magari. Aspetta che saranno un bludgeoning. Sì. Faccio un fortissimo di 4, eh. Attento che fa male. 3 più 5, 8. Resistenza vuol dire che di mezza, giusto? Aggiungo la... giusto, te lo dovevo chiedere. Aggiungi la destrezza e danni. Quindi 3. Anche la competenza. La resistenza vuol dire che di mezzo. Sì, di mezzo. Se hai 5, prende 2. Allora aspetta, non faccio 8 danni, ne faccio 6. 6 danni, quindi ne prende 3. Ah, questo vale per tutti o solo per i pugni? Vale per tutti? Non agendi la competenza ai danni. Pardon. Vabbè, tanto è il primo colpo che faccio. Chi non... altro può colpire? Catta. Io gli volevo lanciare comando. Comando. E che gli dico una parola. La parola in questione è vieni qui, approach, e se lui fallisce questo tiro salvezza Magico. Sulla wisdom, mi obbedisce. Salvezza. Aspetta, però. Farei, diciamo, Restrained? Cos'è? Bloccato. Bloccato. No, dice solo il bersaglio si muove verso me Finchia. Per la... Sì, no, non c'è cazzo con Restrain. Per la strada più breve e finisce il tuo turno. Dimmi il tiro salvezza. Se si muove. 16-12. Giusto? Okay. È 8 più 2 più 2. Di base 8 la CD. 8 più 2 più proficiency più carisma. 12, esatto. Sì. Esatto. Immagino che varrà al prossimo turno. In realtà, se Katta agisce prima, tocca, cioè lo deve fare subito. Immagino. Vabbè, ora rimane. Non lo so, no, non lo so. Vabbè. Chi altro ha preparato? Io non avevo preparato, però se rimane lì posso fare qualcosa. Aspetta, non avevi preparato niente? Salla aveva preparato qualcosa? Non avevo preparato. Ma lo facevo solo, cioè non ho preparato niente, ma era una reazione, la facevo solo se attaccava, non ho attaccato, ciao. Ha provato ad attaccare, ma non ha preso. No, infatti, ciao. Va bene, sta a scegliere. Se vuoi guardarlo in italiano, per farlo. Ciò cioè, sta a te, il demone è lì in faccia a voi. Per me non so. Posso usare il bastone? In realtà tu inizialmente mi avevi detto che avevi il bastone. Poi ho detto ripongo il bastone per un dardo, perché se arrivava da lontano tu puoi estrarre un'arma e, se non sbaglio, puoi interagire con un oggetto gratuitamente, ma quindi, nel caso particolare, inoltre, mi sembra che estrarre un'arma faccia anche addirittura parte di un attacco. Ok, quindi poi quindi sì, grazie a Dio sta minchiata della terza l'antologia. Sì, è vero, non sono d'accordo. Quindi, niente, li picchio col bastone. No, una zanzara. Muori, puttana. Oh, una zanzara? Volevo dire io, mi sembrava squallido. Vedi che ha detto qualcosa? 12. 12 non lo becco. Cazzo. Però vado col pugno. E faccio 20. Però prima aspetta, faccio una domanda al mio amico Katta. Proficiency più la caratteristica che ho detto. Il bastone non può fare un doppio colpo. Che non lo specifica. Devo vedere, perché se è una tra le, potrebbe esserci il secondo colpo anziché col pugno, non ha senso che Giulio di nuovo, penso ci sia un talento per fare quello. Io non sono rimpiazzabile. In realtà prima ancora aveva scritto lancio Thunderwave. Io mi sono trattenuto sulla bambina. Grazie a Dio non lo rimpiazziamo. Nessuno gli ha ancora risposto, vendo biglietti per lui. Ma quello che gli ho chiesto è se il secondo colpo anziché col pugno posso continuare col bastone. Credo ci voglia un talento. Ma non lo so, io raga, non lo so, i vostri personaggi li sapete voi, io già come è una cosa che non ho è una cosa che non ho trovato, per quello glielo chiedo. Cos'è che vuoi fare? Cioè, secondo, anziché col bastone poi col pugno, ha senso che faccia due colpi sempre col bastone. È il bastone da combattimento, quindi tac tac. A mano due maestro bastone. Andiamo a vedere. Giusto, effettivamente è una domanda. Ah, tu puoi fare due colpi normalmente con i pugni? Non so. Il secondo lo potrei fare col pugno. No, però come funziona questo tuo attacco? Tu sei, io ho un secondo attacco. Stai usando la scarica tu di pugno. Tu hai un secondo attacco? No. Questo disco. Da cosa ce l'hai questo attacco? Aspetta, è la reazione o il suo turno? È il suo turno. Adesso può fare. Ah, ok. Tu il secondo attacco lo usi perché ti bruci il... No, aspetta, calma. Io mi ricordo. No, usa la bonus action. Usa la bonus action per fare il secondo. Quando usi l'azione attaccare con un colpo disarmato o con un'arma da monaco, puoi fare un colpo disarmato come azione bonus. Aspetta, ad esempio, se effetti l'azione attaccare e attacchi con un bastone da combattimento, puoi effettuare anche un colpo disarmato come azione. Era specificato benissimo. Non lo ricordavo. Quindi tiro i danni del pugno. Hai fatto 20. 5. A non naturale, poi usa un punto key per tirare gli altri due pugni. Va bene, che è raffica di cuore. Dai, 19, che sono, ma fa ancora 4 danni. E l'altro, Fumble. Fumble di quello, niente tabelle, siamo sicuri? Non volete cogliere questa occasione? È già morto una volta. Dai, usiamo le tabelle, almeno sui giocatori. Tu cosa dici, Sallino? Non ti stavo ascoltando. Dai, è più divertente. Io carino. Secondo me, sì, tanto onesto, succede una volta veramente. Le tabelle io non le ho, quindi se le volete ce le tira fuori Salla, se no io farei finta di niente. Come volete, per me era carino. Però se volete uscire, ditemi voi, però se volete fare tabelle o facciamo sempre tabelle o non facciamo mai. Sì. No, io farei oggi senza e poi vediamo. Ci pensiamo la prossima volta, dai. Va bene. Allora, lui ha come compito quello di stare lì, ma può fare qualcosa o no? Anche perché ormai l'ha fatto. Va bene. Tra l'altro se viene attaccato mi sa che deve rifare il tiro salvezza. Dici che dura più per più turni? Non lo so. Non mi ricordo. No. Incantesimo è tuo. Direi che queste cose dovete dirmelo voi, perché io non è che mi vado a guardare 150 incantesimi, già è tanto. Se il gioco stiamo giocando. Ma adesso dovresti vergognarti, cazzo. Un round. Dura un round, quindi finché non tocca a me. Pezza, bambina, è bionda o mora? Beh, mora sicuro. La bambina era bionda, perché? No. Ma è andata via? Ma la sta disegnando. Ah. Grande, grande Sceo sempre sul pezzo. Sì, in questo turno lui deve seguire il comando, poi fa quello che gli pare. Che miseria. Guarda, Carpi, cosa sta venendo giù? Il mondo. Mi sa che anche qua qualcosina. No? Sì. Auguriamo un buon diluvio universale ai nostri telespettatori. Va bene, ragazzi, allora. Quindi, incantesimo. Cioè, il prossimo turno può fare quello che vuole. Esatto. Adesso deve stare entro 5 piedi da me. Ma non può neanche attaccarci? Sì, no, puoi, basta che mi stia vicino. Ah, va bene. Che ne attacca a te? Va bene, allora. Che venga. Lui può attaccare anche un oggetto, penso. Non so come funziona. Neanche io, lo interpreto così. Tanto lui comunque tira. Secondo me dovresti fare un tiro. Facciamo per quando vedere un attimo. Non ci ho pensato. Tu vuoi attaccare la mia lanterna? Lui vorrebbe attaccare la tua lanterna, che gli dà un po' fastidio. Però in realtà, adesso che ci penso, c'è un modo più semplice. Tu potrebbe provare a prenderti il lotto. Che venga, va bene, proviamo. È una cosa di una prova contrapposta in cui direi che posso usare la mia. È una prova, quindi non è una, non vale come attacco, giusto? Però è tipo un ability check, no? Sì, usa la sua azione per fare una prova di lotta. Credo che se abbia più attacchi può usare uno di quegli attacchi. No, sì, va bene. Va bene, fa una prova di lotta. Ah, no, poi fa cagare. Ci ripenso. È inutile sta roba, pensavo fosse più forte. Va bene. E prova a colpire, diciamo. Oh, bravo. Però non ti può colpire, perché... Perché sono io. Peccato. Lo so spostare. Va bene. E sta a catta. Oh, finalmente mostri la tua brutta faccia, vieni qua a prendere la tua dose di giustizia quotidiana. E direi che prova a colpire. Direi che non provo. 7. Lo colpisco? No, no, non lo colpisci. Allora niente. Sta a Laz. Dimmi tu, io qua ovviamente non mi posso nascondere anche perché ho la luce, però sul fiancheggiamento posso farlo? Puoi nasconderti dietro. Visto che ha 5 piedi. Tu hai ovunque dove nasconderti. Puoi nasconderti dietro, però ovviamente devi lasciare la luce. Esatto, quindi no. Posso fare comunque sul fiancheggiamento. Sì, tu prendi, fai l'attacco furtivo. Perfetto. In caso, però di certo. Dato che lui è in combattimento. Sì, sì, no, quello infatti. Cioè, puoi comunque provare a nasconderti, però ovviamente la luce. 10 mi sa che non passo neanch'io. 10 totale? Sì. 10 non prendi. Se ci arrivi. Sta a Sarla. Cabe, salvaci tu. Sta a Cabe, che tu sbagli, tipo nascosto ancora. Io, da sì, nascosto, suggerisco a Katta. Andiamoci. Ha paura! Sei un figo, come fai a mancare? È stato il grande eroe, tipo, nascosto. Così, si è nascosto. Ha sicuramente in mente un piano. Ora riconosco l'olio. Sei un figo, come fai a non colpire? Tu la prossima volta fidati di me, colpirai e ti do Bardic Inspiration. Grazie signore. No, vantaggio. No. Sta Sceo. Se Sarla non ha altro da fare. No. Mi rinascondo. Mi tiro un'altra bastonata. Posso? Ah, tu? Se no avrei fatto. Mi tiro un'altra bastonata. Vai. 23. Sì. E io. Ci sono. Ah no, 76. No, oh, finalmente il bastone colpisce. 6 danni. E col pugno. Secondo colpo. 6 danni. Sì, 6 danni. Poi faccio 21 a colpire. E altri 6 danni. Anche col pugno. Ma ha detto che se non ci penso io qua. Io sono un bardo, è questo che faccio. Ah, vabbè, mi sono i dati. Fatto? Lo so bene, ci sono morto. Avrei preferito sopravvivere e non colpire. Fatto, però mi è fatto. Quindi resistente vuol dire che di meglio è ignorante, sì. Quindi pari sto facendo pochissimi danni. Beh, intanto gli fai qualcosa. Il tuo incantesimo non ha più effetto. Esatto. Ho finito i punti. Va bene. Lui disingaggia. Okay. E scompare in alto. Ma non provoca attacchi di opportunità. Perché disingaggia. E come funziona? Che disingaggia, non attacca e va su. Ma tu puoi occupare. Ma perché queste cose sono... Sì, è quello che tu non hai fatto e non facendo, sei morto. Esatto, sì, una delle tue azioni può essere il disengage, e tra l'altro tu come ladro avevi come azione bonus. Sì, questo quello che mi piace. Lo sai, ma va bene, inutile infierire in questo caso. Sta a Katta. L'abbiamo visto andare su, hai detto. Codardo. Su, sì. Dico agli altri di venire intorno a me, di proteggere la luce, e preparo l'attacco, l'azione di attacco quando fa molto Power Ranger questa, esatto, cosa di mettersi vicini e guardare in alto, e quando ricompare arriva ingittata del mio braccio. Ok, sta a Laz. Preparo l'attacco. Laz e Salla potete fare, e anche Sceo. Preparo anch'io l'azione quando si avvicina all'incantesimo. No, è andato proprio via via. Potete farla, ma mi sembra che sia andato ricomparso su, passando sotto. Io mi metto vicino. Vabbè, allora preparo l'azione. Mi metto accanto a Cattino. Come chiesto, quello che avevate notato, che avevi notato tu, Lase, che c'era un cunicolo che forse portava su. Ma è arrivabile da noi a piedi? O? Non è tanto distante. L'unica cosa, sembra molto piccolo, e forse l'unico che potrebbe passarci davvero sei tu e anche Kay. Ma è tipo distante, verticale, cioè devi scalare. Sì. Sì, però sì, in realtà se uno di voi tipo lo alzasse su, ci arriverebbe. Ah, okay. Ho capito, però non mi pare proprio il caso di andare. Sì, mi sembra proprio. Guarda, sono esperto in queste cose. Vai da solo. Vabbè, come sempre l'eroe deve pensarci, dai, andiamo su. Vabbè, dai, invisibilità. Sì, andiamo su noi due da soli così. Dagli invisibilità. È un piano che non può che non funzionare. Sì, vado su con invisibilità. O non fai a sapere che ho invisibilità. Invisibilità. Quindi non è molto. Cosa? Non puoi sapere che ho invisibilità. Beh, sì, hai ragione. Io non posso saperlo. Ma qualcosa mi dice che tu possa essere in grado. Né io né l'as lo sappiamo. Quindi, come va avanti? Ma c'è solo quella strada lì o c'è un'altra? Cosa fai? Voi avete preparato le azioni? Anche io sì, tutti di attaccare. Sì, giusto? Va bene. Riappare da sopra. Prova una cosa di questo tipo. Katta mi fa un tiro. Attenzione. Di... Direi... Carisma. Destrezza. Allè. Sei proprio sicuro? Sì. Un tiro a salvezza sulla destrezza. Direi che mi fai un tiro sulla destrezza. Oh, è una roba con cui tipo posso usare. Allora, lui prova, atletica, in poche parole, lui prova a arriva da sopra e prova a prenderti la spada. È una cosa a cui tu normalmente dovresti reagire con destrezza. Se c'è un altro, con forza. Me lo puoi segnalare. No, e semplicemente buttandomi sulla lampada, abbassandola. Competente nell'atletica, posso usare il bonus di competenza alla prova di destrezza. Sì. E noi che abbiamo preparato invece? Puoi usare forza? Stai usando forza, giusto? Ah, io proponevo di usare la competenza in atletica alla prova di destrezza, però forza. Posso usare no, forza, cioè, per tenerlo. Puoi provare forza per trattenere, sì, però sì. Sì, può fare, okay, proverò allora a usare la mia scheda. Noi che avevamo preparato l'azione, ora fate i tiri. Per capire, intendi? Sì. Beh, come direi 23. Che cosa ha fatto. 23, magari lui ha fatto un tiro da madonna. Lui può, sì, lui fate può, i tiri. Lui può, i tiri di cosa? Tiri per colpire. Tutti attenzione. In ordine, scemo. Catta, spendo il mio turno a fare tiro la mia bastonata ed è fambo. Vabbè, la tabella è la prossima volta, ragazzi. Esatto. Cazzo. No, non è anche il secondo quello che mi sbaglio. 17. Sì. Ah, preso. Abbiamo detto sì, che se faccio allora, se faccio l'azione attaccare, sì, ho il colpo disarmato. Ah, vai, vabbè. Guardarlo. Finisco dopo, vai. Vai. Questo prende? 19. 5. Colpo. Vabbè, allora, utilizzato dal fan. Io ho 3, 6 e 9 totale. 9 danni. Vabbè, la morale è che avevo poca voglia di fare sto disegno, quindi ti cuccate questo. Danni, va bene. Salla? Ho una domanda. Visto che io avevo fatto 20 di conoscenze, sì, volevo chiederti un qualche informazione in più sulla creatura. Penso di avervi dato più o meno qualunque cosa. Numero uno, è considerata... L'unica... Eh? Non è umanoide, immagino. Demone, è un demone. Quindi? No. Demone, raga. Quindi non umanoide, c'è scritto demone. L'altra cosa, so se per caso è immune al sonno. Sai, se... Ricordo che ho fatto 20. No, no, sto guardando io. In beh, effetti, puoi sempre provare a fargli sonno. Per motivi strani, non è. No, non so, sì, dovrebbe dirlo. Sonno. Grapple, paralyzed, petrified, prone, restrain, exhaustion. Però nessuno di sonno e lo casto nell'area in cui è lui. Non può essere paralizzato. Non può essere paralizzato. Sonno, che effetto infligge? Che effetto è, esatto? Che condizione è? Sonno. Sonno. Se puoi dormire o no. Sei sicuro che lui non sia immune? Boh. E c'è scritto di solito. Tipo l'elfo immune al sonno. Sleep. Sleep. Allora consiglio al master. Sleep. 290. Oh, mamma mia. Oh, dell'incantatore. Allora, grapple in capacity, disblinded, paralyzed, petrified. Undead, anche io sono molto ben charmed. Guarda se è immune allo charm. Beh, ma è sonno, non è charm. Ma nella descrizione di Sleep c'è scritto. Vabbè, direi che lo puoi prendere. Che chi è immune allo charm sì, è immune al sonno. Ad ogni modo, se non c'è scritto, sì, va bene. Figo, nella descrizione dell'incantesimo. Catta, fatti i cazzi tuoi. Vai. Cosa devi fare? Un tiro salvezza? Ma che tiro salvezza? Se arriva ai suoi punti ferita? Ciao. Poi tira 5 di 8. Cosa vuol dire? 8. Si fa il gigantesimo, tiro un tot di dadi. Il punteggio che viene fuori, okay, quel numero può 19... addormentare tante creature okay, quanti vinto, punti ferita riesce a ricoprire. Vabbè. Basta che raggiunga i suoi. 5. I rimanenti totali. Cioè i rimanenti, 30. No, i dadi ferita. 30? I dadi ferita. 30, sì. 30. Non si addormenta. Cioè tu sei al terzo livello, hai 3 dadi feriti. Okay, sappiamo che più di 30 punti feriti. Questo volevo. Non si addormenta. Ma no, e... proprio i dadi feriti o i punti. No, direi punti ferita. I punti feriti, scusami, mi confondevo. Ma lui torna, lui riscompare nelle tenebre. Nella tenebra, nella sopra, nella roccia. Sta a tutti voi di nuovo. Prepariamo. Ripreparo l'azione. Riprepareremo. Prepariamo. Bravo, catta. Potrei montare una trappola da cacciatore, ma certo. E se vuoi, possiamo entrambi tenere con una mano la lanterna. Accendi una anche tu, sono. Basta averne due così. Di almeno sicuro. Io una solo. Va bene, da solo io preferisco avere due mani libere per poter picchiare. Se cade la sua, intanto il prossimo turno sarà la mia, tu nel tuo turno lo sciupi per accendere un'altra. Sì, va bene, ne teniamo due. Ok, capito il senso. Va bene, allora. No, però io intendevo che adesso sto di fianco a lui, entrambi la teniamo. Così possiamo tirare in due. È più difficile per lui rubarci. Non sai, il problema per te si proporrebbe comunque, nel senso che... Non conviene fare così, perché se li vedo in due lì ruba la mia. ed è un'azione persa per voi. Va bene, non ho capito, fate cosa fate, preparate. Io rimarrei così. Va bene, rimaniamo e prepariamo subito. Preparo l'attacco se si avvicina. Passa, sì. Facciamo sita. Quindi potete fare i colpi se siete più felici. Quindi tira corretto sulla, tecnicamente. Succede, provo a prendere la torcia di nuovo. Non dovevo far prima lui, come prima? Prima dovete... Sì, io l'ho fatto prima, ma Salla mi ha ripreso, giusto che tirate prima voi. Vai. E 16. Sì. 6 danni. 10, per caso. Quindi? Il primo colpo segno. 6 danni. 6 danni. Primo colpo. Poi tocca a lui. Giusto? No, sta a tutti voi se non sbaglio. Cioè prima si fa gli attacchi di opportunità. Giusto. No, sarebbero gli attacchi preparati. In realtà dipende dalla frase che abbiamo usato per... Non avete usato nessuna frase. Quindi, quando, no, quando appare attacchiamo. Abbiamo detto questo. Sì. Quando arriva città attacchiamo. Vai, catta. I commenti sono spettacolari. Fate queste non riesco a condividerlo su GDR in generale. I commenti ho fatto 18, lo colpisco. È tipo il panico. Però ma cosa? Lo smite. I commenti. Ma di chi? Ma in assoluto è tipo delirante. Ma della nostra diretta? No, no. Sto guardando le dirette degli altri. Sì, della nostra diretta. Oh, finalmente ce l'ho. Allora, Divine Smite. Oh, hai usato, hai colpito, no? Kat, sì. Sì, ho colpito. Quindi sai, posso usare anche il tuo Bardic Inspiration e hai danni al colpire. No, vedo, come ne vedo solo alcuni. Allora. Quindi alcuni spot classici non vedo. Mi ciuppo un incantesimo di primo. Beh, devi stare tranquillo però. E per aggiungere 2 di 8 ai danni di questo colpo. Vai. Ho bisogno di 8, 1 2. È un Fiend, mi confermi? Sì. Quindi il danno un altro di 8. Che tipo di attacco è questo, però? Questo. Uno che uccide. È il tacco del personaggio di gatto. Danno radiante. Ok. Oltre in aggiunta al danno dell'arma. Quindi faccio il danno dell'arma 6 più la forza che è 3. Questo 8. È un danno normale. E poi si becca questi di danno radiante. 8, hai detto no? 9. 9 di danno normale. Ok. Che come uguale. Secondo 20 danni radianti. 20 danni radianti. Forse se lo ricasto ora sono... Non importa che casti sonno, perché muore. Come può morire con 20 danni? Perché aveva la vulnerabilità. Ah, si chiama Cthulhu. Ovviamente io lo sapevo. Solo che questo mostro è stato abbastanza inutile. Grazie per avermi detto che aveva la vulnerabilità. Basta, ragazzi, scrivete 4 sulle hai sentito la mia voce nella testa? Ha detto: ti ho detto tutto quello di cui hai bisogno. Con 20. Ah, vabbè, no, scusate, ho capito. No, sbagliato. Non è sbagliato. Cioè, pare che ti ho detto praticamente tutto tranne una cosa. Lo sappiamo in gioco che lui aveva la vulnerabilità, semplicemente Katta l'ha sfrangato in due. Ovviamente attribuisco i magici, tutto quello che è magico a me. Ovviamente neanche Katta lo sa. Devo prepararmi meglio. La cosa che si ricorda è io che ho detto colpirai di sicuro. Lo so. È stato molto facile per voi, quindi questo vorrà dire che la prossima volta vi manderò cosa più grossa. Per la prossima saremo di livello quarto, quindi... Allora, anche questo giù, era, ricordo. Quello che faceva a me, era cosa in pratico. Cioè, in realtà era forte, però avendo svantaggio alla luce... Inutile. Vez, non è che devi lamentarti di ogni mostro che metti. No, vabbè, speravo potesse essere meglio, mi piace. Va bene. E arrivo un altro. Mi piace come si scusa di ogni cosa. Arriviamo in fondo alla caverna a vedere cosa sarà. O... possiamo fare un riposo? Per... No, nessuno di questo colpito. Il cadavere è ancora lì? È un demone. Possiamo, quindi esplode. Possiamo saccheggiare i cadaveri della due guardie che sono morte? Possiamo, cioè, se tu lo vuoi fare, fallo. Io lo vorrei fare. Cosa trovo? Questo è un altro discorso. Potete parlo, sì. Una birra? Posso fare un tiro? Birra le trovi in frigo. Grazie. E... ah, pensavo birra le trovi sul pedale. Okay. Sì. Ok. Trovi... no, l'altro figlio. Quindi due, guarda. Penso la Ceres. Su una trovi 6 monete di rame, sull'altra 4. Armi, roba varia, strana. Ci sono le loro armi, se le vuoi. Oh. Ma niente interessante? Okay. Hanno una lancia e uno scudo. Lo scudo avrà anche l'emblema della casata, tra l'altro. Sì. Quindi... e allora armatura, dipende se le vuoi o meno. Diciamo che lo scudo non lo prenderei. Mi fate cioè, girare con lo scudo della casata del posto non mi sembra un'ottima volete idea. Volete ispezionare questo, questa caverna? Sì, assolutamente. Allora, direi di proseguire. Vai, fatemi tutti un perception. Direi di proseguire. E chi lo fa più alto trova il tesoro. E se lo tiro. Oh, 11. Sì. 9. Oh, 19. 14. Oh, allora, Cabe... perché è grazie a me che avete ucciso quella roba, quindi prego, non c'è di che. A un certo punto ti imbatti in uno scheletro, anzi, vari ossa, vedi? Che schifo. Cavernine. E uno scheletro proprio. È la stanza dei PG di scena. Ma questo scheletro ha una particolarità. Praticamente una delle sue mani è attaccata alla maniglia di un forziere che è mezzo sprofondato nella sabbia. Apro. Forziere mezzo va prima tirato un po' su. Quanto è grande? Quanto è grande? Ne vedete metà, una parte così. Regà, c'è un forziere. Forziere. Una parte, diciamo, saranno un 30 centimetri. Finalmente il bottino. Piano, intanto ho trovato io il bottino. Chi è che lo tira su? Chi è che lo tira su? Lo tiro su io, ovviamente. Tieni su. Venite a me, doblondo. Tirando su il forziere, stretta da uno scheletro, io non il forziere praticamente era di legno marcio ormai, no. Si spacca e rivela il suo contenuto. Palla di fuoco. Passiamo tipo in fondo alla caverna. Cioè è finita, non so. Bah, lo trovate ispezionate un po' e trovate questa cosa qui nelle varie cose. La caverna, la grotta è abbastanza grande, ma insomma, trovate questa cosa qua. E io in realtà volevo fare una cosa. Tieni le razze. Mangio pure. Ma... potrei farvelo un po' a caso. All'interno trovate un'altra persona perché sono buoni. No, perché sei buono nel tesoro comune, sì, e nessuno discute neanche chi l'ha trovato per primo. Sei buono, allora. L'ho trovato io. Massimo, sono io buono. Forziere, demone, caverna. Salla. Non è del demone. Salla. E per ricordarci che incontro era. Salla. Allora, facciamo così. Vabbè, vedo a caso. Mi piace di più. Ci trovate dentro 2000 monete di rame. Oh, ma perché 2000 e poi monete di rame? Di monete di rame 2000. Così non ci emozioniamo. Ha ragione. 1500 monete d'argento. E 120 monete d'oro, cioè, in realtà super grosso, più un po' di gemme a caso. Prenotata. Ve lo sto facendo veramente super a caso. Sempre prenotata. Cosa? La gemma a caso. Dentro 5 quarzo blu. 5 occhi di tigre, qualunque cosa siano, translucent brown with golden center, no. E 2 rose, stelle rosa di quarzo, translucent rose stone white starship center. Ma che cazzo stai a dire? praticamente le prime 10 sono tutte da 10 monete d'oro e le ultime due ricordate da 50 monete d'oro. Ma non sempre, no, non c'è più quella cosa, cioè, sai esattamente quanto vale. Va bene così, dai, direi. E poi c'è una cosa particolare in questo tesoro. Un teschio dorato. Oh. Wow. Mio. Con negli occhi due pietre preziose, una verde e una rossa. Un semaforo. Grazie per averlo rovinato. Come sempre, rovinato. Faccio del mio meglio. Ma... esatto. Ma... i denti sono dorati anch'essi, ma con alcune pietre azzurre. Anche questo è semaforo. Una domanda molto stupida: è un teschio placcato d'oro? Cioè, un teschio vero placcato d'oro? È un... hanno fatto a forma di teschio? Cioè, dalla grandezza è un teschio con dell'oro sopra. Piove, sembrerebbe, cioè, ma magari, un ladro. Magari è d'oro, chi lo sa. Come sei in moto? No, è dalla certo. grandezza. Cioè, se la grandezza, no, la grandezza grande è quella che la grandezza hai, vinto, è quella... hai vinto una bottiglia d'acqua. Sembra proprio un teschio umano. Che cazzo ha vinto? Visto l'acqua. Così, ti sembrerebbe. Potrebbe essere sia placcato d'oro che d'oro. Io avrebbe il letto alla mantella. Sì. Forse dal peso. Io lì ho il mio letto. Che gara è? A casa giochiamo. Allora, te non piove neanche. No. Ok. Immagino che dopo questa scorpacciata di tesoro voi uscirete dalla... Io in realtà non lo so. Io in verità pensavo di viverci. Bravo, scemo, no. Il secondo personaggio perso per scemo. Secondo voi non è niente portare il pulicolo sopra? No. Mettici tu la testa. Io di là non ci passo. Io non voglio andare. Sì, io ti passo. Okay, se non vuoi andare, fai pure. Io ho sentito le storie su eroi che hanno messo la che testa hanno perso la testa e sono stati uccisi. Uno di questi ci hanno fatto appena il test che abbiamo appena visto. Come esatto. Sempre, Cable, la tua saggezza è preziosa. Grazie, è un piacere condividere. Bene, usciremo di tornare verso il porto, magari una prima troveremo Giulia e gli diremo che non abbiamo trovato niente e che noi siamo delle anche 4 lui no. Quanto meno le monete d'oro mi pare siano divisibili per 4, se vedo bene il numero, quindi... cioè è arrivato sto PG nuovo di show e già no vabbè, ci ha guardato le spalle, va bene, quindi uscite dalla caverna e le guardie sono arrivate dritte da noi. Sì, esatto. Sì, ma come va bene. Beh, quando uscite da... c'è Giulio in ingresso serio. Quando uscite dalla caverna, Giulio è lì. Okay. E una cosa gli ha dire. Io sarò cieco, ma tu non hai visto sette guardie e una donna passare di qui? Stavo pregando, stronzo. Vedo piacere che siete sopravvissuti. Già. Ma a quanto pare alcuni di voi sono più ciechi di quando sono entrati. Forse faresti meglio pensare che se andate dentro... Non posso in qualche nessun modo avvisarvi. Magari seguire le guardie per aiutarci? Come forse? Allora, batte tipo la faccia per terra, però c'è l'acqua, quindi fa flash, e fa, magari dovresti prestare più attenzione quando uno parla. Se ti dico che è interdetta per me questa zona, è interdetta. Va bene. Forse... sarei meno cieco e meno sordo. E magari anche muto. E magari anche, soprattutto muto. Ma più muto. Va bene, tutto sommato ci è andata bene, ce la siamo cavata. Va bene. Però gli chiedo effettivamente se la donna e la ragazza dove sono andate. Comunque l'unica cosa che vi avevo detto, non siete stati in grado di farla, ho visto. Dice Giulio. So già che mi pentirò, che cazzo hai detto? Bene su queste parole. Intendi accompagnare la ragazza dove voleva andare? Beh, è arrivata la mamma e questa signora l'ha portata via. Ho visto la ragazza portata via. Sì, è una signora che dice di conoscerla, non so se è la mamma o qualcosa del genere. Dice che ha un po' e quindi ho dovuto uccidere tutte le guardie perché mi hanno guardato. Rega, aspetta, dov'è? Non mi sono impegnato molto su questa ragazza. Come? Non mi sono impegnato molto su questa ragazza. Guarda su WhatsApp. Insomma, sei serio? Non la metterò come immagine. No, è questa qua. È questa qua, perché se la mando bene. Ma l'hai fatta anche storta? E soprattutto, che cos'è quella roba verde? Il promontorio. È il promontorio, vedi? Adesso, cos'è? Vai in palestra da Arci, sta ragazza? Ha delle spalle enormi. Ah, questa è carina, bravo. Pez, grazie, Las, perché non ti fotti? È una palestrata, però va bene. È palestrata. Scusa, non era quel mostro che ha picchiato Katta? Gran mossa per non disegnare le mani, bravo. E i piedi. E i piedi, bravo, esatto. I piedi, cazzo. L'unica cosa che dovete fare non la fate, bravi, visto che l'ha scritto anche lui. Non lo ucciderlo. Oh, Giulio ci fa un complimento, poi ha letto quello che aveva scritto solo. Va bene. In effetti, vabbè. Ok. Vi ricordo... Ah no, dovevamo fare anche un'altra cosa, che Giulio non sarà contento che non abbiamo fatto. Non abbiamo preso le dita alle guardie. Giusto. Ma non sa che sono morte delle guardie dei... Beh, ne ha viste sette entrare e cinque uscire. Sono rimaste dentro. Certo. Poteva entrare lì e prenderle, tra l'altro. Quanto tempo è passato? Giulio vi chiede se avete trovato qualcosa all'interno. No. Niente di troppo importante. Mentire agli dèi è un male. Sì, sto cazzo, fai un tiro. Fai un tiro di percepire intenzione. Davanti agli dèi. Gli dico, c'era un forziere con queste monete d'oro, verranno equamente divise tra chi presa parte. Fai un bel tiro di percepire intenzione a girare. Rispondi a questo. Non mi interessa l'oro e le vostre ricchezze. Non sono certo un avido conquistatore. Ti dicevo solo che è così che funziona. Sì, le prenderò, ma solo per darle. No, ti ha anticipato il combattimento. Bravo, Vez, è irritante al punto giusto. Le prenderò con riluttanza. Le prenderò con riluttanza, ma solo perché nelle mie mani sono sicuramente meglio che nelle vostre. D'altra parte, chi è cieco come può maneggiare? Il denaro. Però non mi fido molto di voi. Secondo me avete trovato qualcos'altro, qualcosa che state nascondendo. C'era anche questo pesco. Ma sì, ma anche un pacco di cazzi tuoi, tipo. Oh, esatto, lui non dovrebbe tenere il tesoro comune. Giulio lo guarda e dice: va bene, questo lo tengo io. Se lo prende, se lo mette nella bisaccia. No, sto cazzo. Ci provo a rubarglielo. Il tesoro verrà diviso come da precetti del codice. Questo non è un tesoro, chiaramente. E allora paga per averlo. È un tesoro di una persona. Ma voi forse siete abbastanza troppo ciechi per vederlo. Comunque va bene, possiamo per ora tenerlo qua, ma dovremmo indagare. Non è un tesoro di quelli stupidi che voi utilizzate per bere nelle locande e andare con le prostitute. Come uomini peccatori. No, non ne so molto. Faccio un attacco su Giulio. Certo. Vedete il bastone. Faccio un gran danno io, tra l'altro, perché non hanno nerfato le armi per i taglia piccolo. Va bene. E tornate verso il porto? Cioè, non puoi avere le armi grandi. Però fa danno lo stesso. Quindi fa un male porco uguale. Vabbè, a parte ovviamente le cose, semplicemente Giulio vi invita a non trattare questo pezzo. Sì, piacerebbe a Darci che sta ragazza andasse in palestra. Certo. Giulio vi invita semplicemente a non trattarlo come un pezzo d'oro qualunque. Va bene. I tuoi consigli sono sempre ben accetti, signore. Grazie, cioè prima ci tratti di merda e poi ci chiedi un favore. No, non mi pare di aver chiesto alcun favore. D'altra parte, ma infatti, non grazie. Non dar cambio voi mortali. Ma infatti ti ringrazio. Io dico, ma infatti ti ringrazio per questo. Grazie mille. il tuo nome Kane sarà anche famoso in altre zone, ma per me non significa nulla. Non era quello il punto, e anche per questo ti devo ringraziare, sei un grande. Con la mano. È bello interpretare Giulio. Così quando la prossima volta lo faccio io. Va bene, scherzi a parte. Salutiamo Giulio. Tornate verso il porto. Se qualcuno dei nostri telespettatori vuole un biglietto per il concerto del Depeche Mode. Ah, direi che... Allora, sì, cazzo, vogliamo una percentuale, però se lo vendiamo. Sulla via del ritorno, Giulio vi rivela che in realtà avevo un biglietto. Che in realtà avevo un biglietto. Che mi devo tornare. No, vi rivela che praticamente in realtà non era interdetta per lui semplicemente che era una grande un'occasione da non perdere per lui per fare uno short rest. Ma no, non è vero. E va bene, al ciao. Porto. Bene, al porto ormai è sera e il giorno dopo voi partirete. Volete fare qualcosa di specifico questa serata? Scusa, c'è il mio primo disegnino della donnina. Il tuo primo disegnino, non so cosa tu abbia fatto, hai preso una sagoma, l'hai messa lì storta. In realtà, se la mettevi senza ombreggiatura, ma l'hai fatto tu, non hai preso una sagoma storta. No, ho preso un modello di Paint. Esatto, una presenza distorta su una roba verde una e delle roba bianche con delle spine. Però no. È tre dimensioni. Direi di investire il bottino della serata in rum e donne di buon costume. Sì, ma non tutto il bottino, vi ricordo. No, quello che le signorine accettano, quindi le mettono. A meno che non ci sia qualcuno con dei gusti particolari. Ma però penso che siano più o meno tutte sorde. Cieche. Cieche. Va bene. Sì. Catta va a prostitute. Col bottino comune. No, no, scherzi a parte. Vabbè. Se gozzovigliate, togliamo. Vi togliete a testa. No. Io non togliere perché non gozzoviglio. Quanto soldi? Una moneta d'oro. Ah, vabbè. Va bene, allora se tu hai la stipa e non mangi, non fai niente. Ma cosa ti servono? So, mi avete detto che andare a prostituta. Ma cioè, lui parla per tutti. Eh sì. Boh, ma ci sta, se per un cazzo di tempio o per la vita. Non sembra un buon pesante. Sono sempre vabbè. Vabbè, toglietevi una moneta d'oro a testa e non rompete. No, vabbè, allora... Il master sta spingendo per questa cosa perché vuole descrivere la situazione. Chi se ne frega. Allora, Katta spende due monete d'oro. E gli altri, se mangiano semplicemente, bevono un bicchiere di birra, si tolgono una moneta d'argento tutto. E basta. Tu cosa fai? Io mangio e basta. Voglio i soldi. Sì, sì, anche io... Cazza che va a prostitute, togliti una moneta d'oro. Ma tolte due, vabbè. Allora toglietene due, che due prostitute. Chiaro. Con pasto incluso, però. No, anche posso fare un riposo breve? Cave, tu fai solo riposo breve e non mangi, giusto? No, mangio. Allora, ti togli... Un altro di riposo. Ti togli un... Beh, vediamo, vuoi fare la tua scenetta? No, l'ho già fatta ieri e mi sono stancato, basta. E mi hanno preso per il culo e quindi non la rifaccio. Io, se posso, mangio un po' in fretta, diciamo. E poi vado... Pure. Dai, hai un porto. Vai, sentiamo. E poi dove va? Tiri la mattina dopo, partiamo. Yes. Allora io, decido di passare la notte in barca. Non mi interessa. L'ho già lei, arrivo e torno già per stare un po' da solo. Riposare. Sì, Cave cosa fa? Dove dorme? Non c'è più. Vabbè, intanto è l'unica volta che mi serve. E Cave dove dorme? Sì, togliete pure una moneta d'argento a Giulio. No, perché sto continuando a scrivere. Togliete la moneta argento. E non ha partecipato, mi dire, non volete d'argento, potremmo morire, andiamo in un posto dove non serviranno nulla. Tra l'altro, esatto, tipo, queste sono tipo le uniche volte in cui potete usare questi soldi, è bellissima sta cosa. Ora che me lo fai notare. E noi no, io voglio denaro, voglio denaro. Che cosa mi potrebbe servire? Le manette, ciò quelle delle manette. Facciamo sì. Mente locale. Era ottima argomentazione, Vez. Non solo va da puttane con Catta, ma anche no, aspetta, però dipende come me lo dici. In che senso? Va da puttane. Da puttane, ovviamente. No, ma anche vado anche a alla locanda dove eravamo arrivati, no? Sto cazzo, non vado a dormire alla nave. Io vado a dormire alla nave. Ci sta? Non ricevi risposta, ma fai un tiro. Beh, sono là, già su nella... Sei sulla nave, fai un tiro. Tu, Cabe, sei a gozzovigliare quindi e dormi in locanda, giusto? Sì. Va bene, tu come caccia ti togli due monete d'oro. E ce la moneta raggiunta. Sembra spendere, neanche vale. Fosse un riccone. Niente, allora. Duido. Guarda che tanto sono da solo. Però senti rabbia dentro di te. E non riposo. No, no, no, no. Riposo. Sono tutto col pazzesco che stavo per fare. Il giorno dopo... Se non avete una cosa particolare da raccontarmi. Sì, ti volevo chiedere. No, i dettagli... No, grazie. Ma quanti anni ha? 15? Tutte donne bellissime, dal quintale e mezzo in su. Oh. Mi piacciono in carne. Così che ci piacciono. Sì, però... Dai capelli salmastri. E una decina di denti in bocca. Scusa, no, cioè, oddio. Scusa, cioè, per lui quelle con meno, però per lui tanto, ma quello è un Alpeng. Alla tua età mi facevo due di queste balene alla volta e saltavi fossi per la lunga. Allora, la qualità non è altissima, ma insomma qualcosa di più. La quantità sì. Ne andiamo sul peso. Non so. Beh, anche perché non ci saranno milioni di donne in questo posto. No, c'è poche. Qualcuna che fa il suo lavoro da molto tempo. Molto tempo vuol dire molta età. Come se il più antico del mondo l'ha iniziato lei. C'è anche chi vi canzona dicendo: ma quindi siete andati davvero al promontorio? No. Cioè, sul serio? Ci avete creduto? Beh, dai, ci va bene che non c'è Giulio, se no saremmo qua tutta la serata. Già ha scritto che dobbiamo uccidere quelli che hanno pisciato da Lotario. Sono gli stessi, magari. Questi erano quelli che avevano del posto. Poi qualcuno anche in più che vuole sentire, tipo, ma davvero siamo nativi? Certo, ci siamo andati e abbiamo liberato il promontorio dalla maledizione che lo affliggeva. Beh, spero per voi di no, perché se no vi daranno la caccia. Tipo, qui ora abbiamo incontrato anche le guardie dei Sbindan, come Flyer dei Flyer. Ma non hanno avuto una sorte favorevole, purtroppo. Avete ucciso le guardie dei Flyer? No, sono... Non credo che sareste qui in questo momento. No, hanno avuto un incontro spiacevole con un essere abominevole che abitava nelle grotte del promontorio. È solo una ragazzina, mi sembra un po' esagerato definirla un essere abominevole. Dipende chi la disegna. Esatto. Fa finta di non sentire chi no, la ragazzina sta bene. Ho riconsegnata ai suoi genitori. Allora, mi avvicino ai tizi e gli racconto una storia di un villaggio nel continente, di alcuni popolani che prendevano sempre in giro un tizio che diceva al lupo. Sì. E poi il lupo è arrivato davvero ed era un demone in questo caso e sono morti tutti e gli intimidisco facendo sta storia. con sì, con dai. Intimidire 19 di dado più 4, 23. Piccoletto, capisco cosa vuoi dire, però fortunatamente non vedo demoni qua. Sì, 23 lui doveva dire, oh mi scusi mio signore. No, dice, però no, dice, fortunatamente non vedo demoni qua, ma ti auguro comunque una buona serata, e se ne si toglie le palle. Ciao. E la riga di pipì per terra, perché si è pisciato addosso. Vabbè, ho capito, nel senso, è un dividere nella serie, togliti dalle palle. Immagino. No, della serie, c'era gente che millantava di robe, di storie, e poi sono morti tutti. No, certo, no, sai. Vabbè, però l'ho raccontata molto bene. No, infatti lui se n'è andato via. No, perché non è che poteva dire, oh mio Dio, mi racconto la storia! Esplodere. No, però poteva... È assolutamente bellissimo, Però poteva dire, poteva dire tipo, mi dispiace, non volevo prendere per il culo, in effetti abbiamo un po' esagerato, ciao. Non sono abbastanza. Niente, ciao. Vabbè. Buonasera. Vabbè, interpreta buona... come vuoi, è solo che le prove di, della 5-20 è un tiro molto difficile. No, no, ma infatti là, cioè, là intimidito se n'è andato. Ah, cioè, comunque... come vuoi, cioè per me è uguale. Capito, nel senso... Come vuoi, non sono io il master, no. Però devi fare così. Lui, cioè, è intimidito e se n'è andato. Detto questo, non è un intimidire... Tipo, ti sto dammi soldi, quindi cioè, più di andarsene. No, però è una roba del tipo: forse abbiamo detto, forse abbiamo esagerato, forse in effetti abbiamo detto una stronzata. È meglio se non facciamo più. Scusami, ciao. Quello dipende anche un po' dal tipo di personaggio che è chiaro che uno che si cura della gente. Giocatela facciamo. Come vuoi, ti faccio solo notare la cosa. Niente di che. Intimidire l'ha intimidito. Detto questo, non è che si prostra ai tuoi piedi, insomma. Non, ma non perché, ma perché anche se avessi fatto 150 non si sarebbe prostrato ai tuoi piedi. Tutto qui. Molto semplicemente. Questo. Cioè, nel senso, tu gli fai una roba per capire, togliati dalle palle, perché è inutile che fai il grosso. No, gli faccio capire che sta facendo il coglione. No, io gli faccio capire che sta facendo il coglione ed è meglio se si leva dalle palle, perché le conseguenze delle sue di questo tipo di azioni possono essere più grosse di quello che si aspetta. Esattamente, e quello che lui fa, infatti, è che si toglie dalle palle, proprio come volevi tu. Sì, sì, sì, no, era che l'avevi detta tipo, ah... Vabbè, ok, non ci sono demoni, ciao, come dire, ti faccio la gag e me ne vado. In realtà lui... No, lui fa tipo, ti ha fatto tipo, capisco cosa vuoi dire, non vedo demoni qua, ma capisco, buona serata. Sì, sì, sì. Tutto qua, cioè cercava un modo, diciamo, di non troppo, di non, per non fare troppo, diciamo, non andare, diciamo, via con la coda tra le gambe, andando via con la coda tra le gambe. Tutto sì, qua. Sì, sì. Di più mi sembra un po' irrealistico, ecco, ma non perché la prova sia bassa, perché qualunque prova, questo è, insomma, per come la vedo io, a meno sì. Che tu non gli voglia puntare un coltello in faccia. No, però l'idea era quella, tra virgolette. Per cui dai soldi o roba del genere, no? Quella è un'altra cosa. No, però l'idea era quella, nel senso, le condizioni, vabbè, ma vai avanti, non volevo fare così. Non so, non mi è parso che tu volessi niente di più che lui andasse via. No, volevo qualcosa. Che lui si cagasse sotto e dice, ah, mi dispiace, non volevo, e se ne andasse. Sì, più o meno quello che ha fatto, senza chiederti troppo. Non so, cioè, non mi è parso che... Però magari ho interpretato male io. Investo la mia parte del tesoro per comprare una spada lunga argentata. Vediamo se la trovo. E allora l'altra parte del tesoro dammi. Anch'io la voglio, la mia parte. Allora, sono... Una spada che non so neanche quanto costa. 100 monete in più di quella normale. Oro? Di argento. Sì. Quindi mi prendo 100 monete d'argento io. Trovi nella locanda un mercante che è disposto a vendertela. Ok, allora dividiamo tra noi quattro il bottino del forziere del demone, tranne il teschio. È disposto a una spada. No, no, è per darci la cosa, così cancella da lì. Così la pago, perché altrimenti non ho abbastanza soldi. Quanto costa? 100 monete d'oro in più del prezzo. Ora 100. Ah, oro, hai detto, me detto la spada è d'argento. La spada, è d'argento. Costa 100 monete d'oro. Ah, in più, okay, in quel posto. Cazzo. Mi ha detto che c'è un mercante che me la vende. Lì, sì, la locanda trovi un mercante che ti si chiama culo. Il mercante. Con la il problema è questo, è sera. È un nano. È che c'è un coso di armi d'argento, però c'è un posto con dei mercanti. No, beh, però più probabile è che la trovi così. E la trovi così. E vai. Oh, ma tutte le cose non vi vanno bene, comunque. Siete così. No, no, io ero positivo. Ma non ci sta che sia nella locanda sto mercante, no, perché i mercanti di solito vanno nell'altra locanda. No, sono detto che culo che ce l'ha. Ma mercante, sì. 105. Sì. Va bene. Sarebbero 105 a testa, se gli do anche le gemme, le accetta come pagamento. Fai un... No. Beh, se accetta, scusami, se posso, se accetta le gemme, vendigliele tutte e poi ci dividiamo le monete. Fammi una prova, di... no? Vediamo se l'accetta. Carissima. La posso fare io, se no. Vai, persuasion. Di persuasion. E tu cosa sei, piccoletto, cosa vuoi? Il mio commercialista. Ma lo fai tu? Quanto sei totale. No, io non mi fido delle gemme che mi spacciano gli Apple, mi hanno già ingannato altre volte. Perché non ha tutti i torti? Devi farlo fare a me sta cosa. Io prenderò volentieri il tuo conio, uomo dalla benda. Ma io mi chiamo dalla benda sudicia. Va bene, navigante dalla benda oscura. Tenghi, signor. Cosa hai tirato? Raggirare? Persuasione. Ah, persuasione. Prenderò il tuo conio, non le tue gemme. Va bene. Gli do il... E soprattutto non le gemme di quel piccoletto. Cazzo. Dalle a me, vado io. Ma vedo una, ma poi guarda, tipo, vedi sale che si avvicina e fa no, e scappa via. Voi altri vi segnate 105 monete. Era questo che volevi con il TVD? Se non volete 105. Non ho diviso le monete di rame e d'argento, quelle le tengo in cassa comune per le spese. Sembra il cavolo. Quante monete? 105. Quante troie? Giulio no, ovviamente. Non ti hanno segnato la spesa di Giulio. Questo... Giulio non era interessato al denaro, solo alla conoscenza, alla nostra solidità e cecità. Adesso quando torna, stronzi! Va bene. Giulio sembra abbastanza scocciato di tutto questo e va a dormire. Sulla il suo personaggio cosa fa invece? Il suo personaggio va a un concerto sulla spiaggia. Adesso non giocherà mai più. La cosa buffa è che il personaggio di Giulio ha un biglietto che gli è stato venduto a Giulio. Ma ve lo vendeva all'ultimo, non so perché. Vabbè, scherzi a parte. Giulio è un po' bulleggiato dai tuoni. È vero, lontanissimo. È Giulio. Esatto, arrabbiato. No, è stato un po' bulleggiato perché ha cercato di venderci un biglietto, ma ci stava in realtà. Però è stato divertente. Va bene, torniamo avanti. Il giorno gli dopo, per diretta, Notaria salpa. Scrivete Depeche Mode nei commenti per avere... Io non li vedo i commenti, mi dispiace. Metti mi piace di fare sta cosa. Beh, dovremmo condividerlo sulla pagina. Okay. Va bene. Voi, figurati, esordi. Ciao. Ma perché? Non lo so, ne vedo qualcuno. Perché c'è scritto 22 commenti ma non si vedono tutti? Perché avete un'applicazione di merda e non il browser. Sì, può darsi che sia... Perché no, se io li vedo tutti da browser. Ah, sì? Cosa dicono? C'è qualcuno che ha scritto... Allora, cominciamo dal primo. A parte che c'è qualche commento sensato. Viene sempre. Ciao, Gini. Tato non ha mai avuto così tanti commenti sotto i suoi video. No, no, io non sono rimpiazzabile. Grazie per la considerazione, Giulio. Anch'io voglio giocare. Precisamente seduto in ristorante davanti a me, non al in. Chi è che vuole giocare? Ad Arbatax, sono in Sardegna, non so, sarà la connessione di Tato, questi sono tre commenti. Giulio, ma dove sei? Non mi saluti, perché si blocca Giulio, voglio giocarci anch'io. Tato, sei un nerd. Vabbè, nessun commento rilevante. Bellissimo, l'ultimo però mi è piaciuto. Non è l'ultimo in realtà, ci sono degli altri, ma intanto... Vabbè, dici, aggiornaci solo sui Depeche Mode. Grazie. Chiudi l'app e riapri. Sì, sì, sta non si connette al GPS. Vabbè, no. Idromele e riposo breve. Poi bisogna ammazzare i simpaticoni della pisciata nella vasca dell'Otaria. Ah, Giulio, la prossima volta. Allora, l'Otaria fa vela. Questa volta per l'isola di Altri. Cazzera. Il cellulare, scusa. Ma che malattia è? È lì sotto. Guarda come si scrive l'isola di Aldric. Allora, dai la mappa. Aldric, contro, uccidiamo demone. Va bene. Vuoi fare cose particolari? Sì, cose particolari le fate. Allora, intanto, nelle prime, no? Praticamente, dopo alcuni giorni di viaggio, comincia a esserci questa cosa strana che praticamente... Scusa un attimo, Vez, la mia cabina ce l'ho ancora o ha caricato qualcuno? La tua cabina ce l'hai ancora. Ok, andiamo se c'è peso. E... Sì. Il capitano Tarren si fa vedere poco, quando vi vede vi guarda un po' con mezzo, con un po' di disprezzo. Hai stuprato un clown e l'hai messo in un... Più di prima o... Un disprezzo legato al fatto che gli avete pisciato nella vasca della terra. Non io. No, te che Abe continui a partecipare alle cene lì, ma lui non... Sì, cioè, chiaramente ti sopporta, ma non è molto interessato a te. Chi invece cerca di mostrarsi amichevole è Boldrick, che ho saputo che alcuni simpaticoni vi hanno fatto lo scherzo della fanciulla, insomma. Quale scherzo? Beh, dovete vedere. In realtà abbiamo aiutato una fanciulla. Da quel che ho saputo, quel che ho capito è una cosa che spesso viene fatta... Sì. Però la storia è andata un po' diversamente. Io ho aiutato la fanciulla. In che senso è andata diversamente? Siamo arrivati lì e poi... Siamo arrivati lì, però io ho notato che la fanciulla... Poi avete notato che era bambina e si torna indietro. Però ho notato anche che la fanciulla aveva un problema. Aveva un problema inerente a quella grotta. Quindi siamo entrati e... Sì, la fanciulla è una delle ragazze, diciamo, di Lord Flaherty ed è mentalmente instabile. Esatto. Però... Immagino che non siete stati a perdere molto tempo a parlare con lei, ve ne sarete accorti molto velocemente. Siamo accorti subito. E quindi abbiamo deciso di fare comunque un giro. Almeno io ho spinto i miei compagni a fare un giro all'interno della grotta. E lì. Che grotta? È un promontorio. Non mi pare. Lo so, ma forse non tutti sanno che c'è una grotta ai piedi del promontorio. Perché tu lo sapevi? No, onestamente non sono mai andato a cercare. All'interno della grotta abbiamo trovato un demone spaventoso. E grazie a Dio ero presente. E l'ho ucciso. Aveva la testa e le ali. E... Cavolo, allora siete davvero degli eroi. Faccio un tiro di performance per metterla in modo fisico. Ci si butta giù e comincia a nuotare per scappare da te. Faccio un tiro di performance per fare il figo mentre... Ah. 15... Intrattenere più 5, 20. Ah, è fantastico sentire queste gesta da parte tua, che Abe mi illumina la giornata. Però devo essere sincero. Non lo dice con questo tono di voce però passivo, lo dice con un tono di voce più... Devo essere sincero, i miei compagni un minimo mi hanno aiutato. E quindi secondo me non sono stati loro a pisciare nella vasca. devo anche dire una cosa. Qual è il nesso logico? Che io immagino, cioè, i tuoi amici mi sembrano tutte persone in gamba, a dire la verità. Però no, penso no. anche che sia magari un po', un po' difficile a volte partecipare a un, diciamo, a delle gesta del genere, cioè, nel senso, alla fine tu sei un grande eroe, loro, io mi sentirei in difficoltà se fossi loro. Ma penso però, di sì, però i comprimari. Questa cosa del demone, onestamente, non immaginavo, però se la dite voi... Vabbè, niente di eccessivamente complicato, cioè, è bastata la mia presenza a ucciderlo. Per esempio, uno che ha ucciso due draghi. Anche il master è stato abbattuto dal fatto che è durato due turni. Ma quindi, non ho capito, questo demone dici che in qualche modo turbasse la quiete del villaggio? Ma non lo so, semplicemente turbava solo la mente di quella povera bambina, oppure non c'entrava niente, era giusto un'avventura per perdere tempo, sai com'è. Beh, allora avreste dovuto farvi riconoscere le vostre gesta da parte della casata Flyer, che sicuramente vi avrebbero premiato con grossi ricompensi. Sì, ma sai, un eroe non lo fa per i compensi. Bello che ogni tanto mi metto delle cose così che magari non so neanche me, vuoi farmi incazzare. Non avrebbe avuto senso. Un eroe non fa questo per i compensi, lo fa solo per aiutare il prossimo. Questo ti fa grande onore, che è anche a tutti voi, ragazzi, davvero. Ma io penso che ma non voi sono presenti. No, beh... No, in realtà quando parla eravate tutti presenti, vi aveva approcciato. Era una scena. No, questo vi ha approcciato sul ponte, eravate in... Quindi hai fatto una scenetta. Allora magari non ho detto tutte queste bucchiate. Però sì, che hai ragione, quando posso parlare con te, che senso ha parlare con gli altri, anche se li rispetto moltissimo. No, scherzi a parte, però vi fa, beh ragazzi, è una bella storia. Spero proprio che voi... diciamo, possiate mostrare, dirò sicuramente presente che voi siete delle persone di valore, ecco. Magari il capitano potrà pensare male di voi per quelle cose che sono successe, però io penso che alla fine siano altre le cose che contano davvero. Ma questa è già, adesso è già mattina, scusa, ho perso dei passaggi. Siete in viaggio da tipo un giorno. Ah, quindi... Non grazie, stavo perso questo. Sì, lascio il resto che l'avete fatto. No, anche no, il medium, un altro medium e un altro short. E va bene. L'altra cosa che viene, decisamente, raga, potete mettermi un pochino più in qua? Così sembra che io non sto facendo la sessione da solo. Io stavo bene. Grazie. Grazie, almeno scemo. È difficilissimo mettere questa telecamera. No, c'è Sallino. C'è la gamba del tavolo, non è colpa mia. C'è colpa mia. Dai, vai, sposta un po' il coso. Chi c'è qui? C'è qui? Chi c'è? C'è qui? Sallino. Che testa di cazzo. Va bene. Allora, l'orecchio destro di Laz. No, è vero, sinistra. No, la telecamera. Va bene. Allora, quello che succede di particolare è che nei giorni di viaggio c'è chi avvista al tramonto, di solito, una nave all'orizzonte che sembra seguirvi. E basta con queste cazzo di cose. Però poi questa nave scompare ogni tanto. Cioè, ogni tanto qualcuno la vede. All'inizio, tipo, qualcuno la vede e dice: ma cosa? Poi dopo chi si va? No, non c'è niente. Che cazzo dici? Poi, tipo, un giorno, effettivamente. Ma che cazzo dici? Effettivamente, beh, sì, è una nave di scaricatore di porto e gentaglia. Tra cui voi, tra l'altro. E io sono il. Il mare in tempesta. No, il capitano Taran pure lui la vede, anche voi a un certo punto la vedete, però tipo è come se ogni tanto ci fosse, ogni tanto no, di solito verso il tramonto la si vede. Sembra un veliero, un galeone, insomma un veliero. Lui può riconoscerlo. È troppo lontano. Cioè è proprio all'orizzonte. Si chiama tagliare le gambe al piano. È una nave, cosa che non avevo. Gianni. Anche perché la si vede, tipo, sembra come tipo una... Ha delle bandiere, delle vele particolari. Non sembrerebbe, non si capisce bene, per proprio all'orizzonte e poi scompare. Ah, è un monoalbero? No, ne ha più di uno. Ne ha più di uno. Ma anche il vostro in realtà ne ha più di uno. Penso che se fosse un monoalbero non reggerebbe il nostro ritmo. Esatto. No, sembra una nave, potrebbe essere... Cazzo, sei il pirata tu! Potrebbe essere una nave di pirati. Sì, ma non è neanche reale, tranquillo. Eh? Non è manco una nave reale. Cosa? Vabbè, non lo sappiamo. Ogni tanto c'è, ogni tanto scompare, però non è che scompare perché è troppo lontano. Io per non sapere leggere da scrivere vado dal tizio lì, come cazzo si chiama, faccio... non avrai creduto alla storia della nave sul promontorio. Ah, abbiamo liberato una nave in quella grotta. Però è una cosa che al capitano sembra infastidirlo molto. Cioè, se molti marinai vi rendete conto, voi alla fine non vi date... Però per l'equipaggio immagino di noi, è uno che li segue, non riescono a... non si riesce a capire. Dopo tipo 2-3 giorni, state ormai verso l'isola di Aldrich, però c'è molta inquietudine nei marinai che sperano di arrivare il prima possibile in porto, perché questa cosa sa pirati. Come di un presagio negativo, qualcosa di oscuro. Sono pirati. Tu, Catta, fammi un tiro di intelligenza, con vantaggio. No. Con svantaggio allora. No, con vantaggio. Intelligente. 13. Va bene. Diciamo che di navi fantasmi è pieno il mare. Il mare, le leggende di navi fantasma, però in questo caso specifico non ti dice tanto. Però è una cosa che un pochino... Sì, dai, da vecchio lupo fantasma, di mare, ragazzi. Inquieta un po' anche te, diciamo così. Inquieta i coloni sono queste cose. Va bene. E... Meglio fare turni di guardia questa Sceo, Sirron. Si sta avvicinando? La notte... Si sta avvicinando? Adesso non la vedete più. Sì, è notte adesso, una delle ultime notti prima di attraccare ad Aldrichvel, sull'isola di Aldrich, e Sceo mi tira un tiro salvezza. Fa un nuovo personaggio. Fa un nuovo personaggio. 15. Io sto... Ma qua aggiungiamo la tua saggezza. Io sto di vedetta. Aggiungiamo la tua saggezza. 18 di 20. Bravissimo, Sceo. Niente. Continuiamo. Io però mi annoio. E chiedo al grandissimo, a quanto pare, eroe storico ormai. Ma a quanto pare? Che cazzo vuol dire a quanto pare? Io non conosco le tue storie, quindi sarei curioso. L'hai letto? Se per favore posso avere l'onore di leggere un'altra storia. Magari altri libri con te che potrebbero interessarmi. Te la racconto. E gli racconto di quando ci penso, poi ti racconto la storia. Va bene. Va bene. Qualche giorno dopo, se non sbaglio, 4 giorni, quindi, raggiungete l'isola di Aldrich, il porto di Aldrichvel. È un ti porto. Racconto, ti racconto una storia di una volta ancora... sì. In cui Sì, siamo ancora in nave in viaggio, quindi sì. Ok, ci ti volevo raccontare una storia. Scusami, Vez. E quando mi ero diretto verso i monti Aranulli. Monti? Aranulli? Aranulli? Bravo. E ero diretto verso questi monti per cercare un misterioso tempio. Però purtroppo c'è stata un'imboscata di orchi. E un mio compagno, Larios, è morto. La situazione completa. Quando senti Larios, Sceo, mi fai un altro tiro. Fortunatamente, però, c'era un tempio vicino. Fortunatamente, però, c'era un tempio vicino e impressionati dalle mie capacità, nel tempio si sono decisi a risorgere il mio amico Larius, e quindi mi ha potuto assistere alle mie avventure future. Assistere? Non ha detto no. Servire. Che... no, non lo direi mai. Wow. Wow. Dai, vabbè, facciamo scelte. Va bene. Sì. È andata no, così però, nella storia. Quando ti dice Larius, sei proprio un brivido... freddo, c'è cioè, un momento proprio in cui ce lo vedete proprio fa così proprio sceo, cioè proprio un momento di in cui sembra che stia male. Per l'AS che non conosce la storia, a quanto pare mi hanno mandato degli appunti in cui sto Larius che era il personaggio di Ema. Ah, okay. Però in realtà è morto il personaggio di sceo durante Non ci penso. No, che... quando dici Larius, cioè proprio vedi lui che tipo a un momento di brutto, sembra proprio che stia male. È un ictus, esatto, però poi si riprende. E non sembra tipo, normale, cioè come se non se ne fosse neanche accorto che successa questa cosa qua. Larius. Cioè, è un giochino. Quando l'hai detto è venuto giù un fulmine, sembra molto. Larius è un nome sceo, che il tuo personaggio Sirro non sa bene perché, però gli ispira particolare fastidio. Larius. Ti prego, non farlo. Okay. Va bene, arrivate al porto di Aldrichvel. È un porto più o meno simile a quello di Erikvel, non tanto grande. Qua capeggiano invece i vessilli con un gabbiano bianco, che sono quelli dei film, e il piano è più o meno lo stesso, fare una giornata... Giusto per curiosità, il peso medio di una donna su quest'isola, che so che il mio amico è interessato... Allora, fatemi un tiro. Cioè, tu scendi la nave con la bilancia in mano. Fatemi tutto un tiro di history per sapere quanto possono essere pesanti, quale prostituzione. 15. 9. 10. Va bene. Salla? Non ho tirato e ho ignorato la domanda. Non lo voglio sapere. Va bene. Guarda che è pericoloso, se ti cade addosso devi sapere cosa fare. Le due isole di Erik e Aldrich sono due isole la cui storia va più o meno insieme. E quindi il corredo genetico è lo stesso. Eccolo. Erano delle isole che sono state più o meno nell'orbita della Libeca, che è un'isola un po' più grande, che è dove voi andrete successivamente. Mm-hmm. Poi sono passate sotto il controllo della Saradovia, che aveva conquistato anche una parte della Libeca, e poi sono rimaste lì e di adesso fatto rappresentano uno scalo importante per la tratta per la Libeca è indipendente invece. Sì, la Libeca sì, è un, diciamo che dal vabbè, questo magari ve lo dico quando ci arriverete, non è vabbè, ok. No, ve lo so, sapere indipendente dalla Saradovia. Sì, sì, sì. Cioè, questa diciamo, ecco, lui è l'ultimo porto. L'ultimo pezzo della Saradovia. L'ultimo porto, che il prossimo porto sarà quello di Narcaen, che però è già in Libeca, esatto. Non in Saradovia, e poi successivamente non te sarete sulle colonie, che è formalmente Saradovia, ma come vi avevo detto, sì. Fino a un certo punto. Mentre qui comunque c'è una casata e tutto. I film. 21 gradi. Guarda, rimettilo vicino, ci sono i cristalli di ghiaccio sullo schermo. Già. Quando siete lì, appunto, al porto di Aldrichvel, il piano è sempre lo stesso, una giornata di svago, diciamo, e poi si riparte la mattina dopo. Quindi immagino che andrete anche lì in taverna. Come... Beh. Sì, certo. Mm-hmm. Quando siete nella taverna? C'è un mercato, qualcosa in piazza, così da fare un giro, direi che andiamo alla taverna. Poche robe, qualcosa. Se avete bisogno di prendere qualcosa, la potete cercare. Quella è la specialità culinaria di Aldrich. Allora. Le relazioni di cibo come le. No, beh, ancora le abbiamo. Quelle nave ce le danno. Sì, no. Non abbiamo ancora consumato niente. No. Dato comunque un basto, secondo particolarmente gustoso. E qua fanno degli ottimi granchi. Mm. Bene. In generale, tutti i molluschi sembrano essere molto gustosi. Mm. Quindi è una cosa positiva quando ti dico. La pizza è pronta di male. Mentre siete in taverna, praticamente vi arriva da voi un drago, un signore che chiede di parlare con gli eroi dell'Otaria. Voi siete voi gli eroi dell'Otaria danzante? Sono io l'eroe dell'Otaria danzante. Lei, signore? Sì. Signorino, guardando in basso e dicendo: boh, sì. Beh, aspetta, in che posa? Guardando in basso, te l'ho dato il tutorial. Guardando in basso e dice: sì, lei è vabbè, solo lei fa parte degli eroi. Insomma, no, io e i miei compagni. Ah, ecco il gruppo di Cabe Brengwine. Cabe Brengwine, il grande narratore di cui tutti parlano. Adi. Ma non può certo essere lei, veramente. Non vedo cosa potrebbe farci qui, questa landa desolata. Ma no, che rompettura di coglioni sta cosa. Ma 18. Hai fatto 18 a qualcosa? No, niente, vabbè, la barzelletta, vabbè, niente. Non fai niente. Quelle che cadono nel tombino. No, quella 18, vabbè, ok. Perché continui a dire 18? 19. Così almeno la conviene. No, vabbè, niente, c'era una battuta. Non sto capendo, vabbè. E a parte queste battute che neanche lui capisce, però perché è un popolano come me, e lui fa... non volevo disturbarvi, ma tutti dicono che siete particolarmente bravi, insomma, particolarmente eroici. Vedete un gruppetto dei soliti che vi prendevano di mira, che ridacchia in un angolo, intanto. Giulio sbatte la lancia per terra quando vede questa Giulio cosa. In questo momento non è con voi. Giulio in questo momento non è con voi. Allora no, non siamo noi. Cioè, questo momento non è con voi perché è voluto andare un attimo scotennare un bambino. Se mi siete andato via, voi magari gli avete chiesto il perché, lui vi ha risposto come sempre: siete sordi e ciechi a non capire. È andato in un'altra isola, hai detto. E quindi presumibilmente vi avete dato assunto. Vez, hai detto è andato in un'altra isola, non ho capito. Giulio? No, ha detto che si è isolato. Giulio si è isolato. Si è isolato sull'isola, ma non gli ha dato particolari spiegazioni come al suo solito. È bello perché in realtà è effettivamente come farebbe lui se volesse fare. Praticamente questo signore dice: non volevo disturbare la vostra grandezza, ma vedete, purtroppo io vengo da un piccolo paese di pescatori qua vicino e in questo momento noi abbiamo un grosso problema. Molti dei nostri bambini, delle nostre donne, anche qualche vecchio, è scomparso e non sappiamo perché, ecco. Sono andati tutti da... C'è un promontorio. E no, vi sembra disperato. Cioè praticamente sta chiedendo il vostro aiuto, vi dice che purtroppo in questo momento non riesce a farsi ascoltare dai signori dell'isola e quindi spera di avere in voi, trovare in voi qualche forma di aiuto. Ma è sincero? Insight. Non hai bisogno di fare un insight, ti sembra tipico. Una persona. Disperata. Disperata proprio, che sta provando tutto, cioè voi non sa neanche chi siete, capito? Cioè, da questi qua che sghignazzavano, capito? Gli hanno detto gli eroi, li senti da loro, figurati, e lui è talmente disperato che pur non sapendo cazzo dire della gente che lo sta chiaramente deridendo, viene da voi a chiedervi se potete aiutarlo. Io qualche... mi volto verso i miei comprimari, e cioè verso i miei comprimari. Sembra sincero, Cabe, cosa facciamo? Non lo so, ditemi voi. In fondo io non posso aiutarvi più di tanto. Io capisco se voi non vorrete sprecare tempo per questo, ma... Secondo me no. io andrei a dare un'occhiata. Sono davvero disperato e tutta la mia comunità disperata mi ha mandato qua per chiedere, ma purtroppo i signori Flynn al momento non possono ricevermi. Io non voglio tornare indietro a mani vuote, perché davvero la situazione per noi è orrenda in questo momento e non sappiamo cosa fare. Ma io mi fido di questa persona ad aiutare. Sì, io andrei a dare un'occhiata, non so voi. State dicendo che non sarei all'altezza dell'impresa? E gli faccio l'occhiolino. L'occhio. Quindi non vedi in quel momento. Esatto, in quel momento non vedi. Veramente. Bene, vi dimostrerò il contrario. Lo sapevo, si tirava un pochissimo. Ho sempre detto. Bene. Andiamo ad aiutarlo, ma solo perché non si dica che Quake Heart non abbia il coraggio di aiutare le persone bisognose. Quake. Tipo I Met Your Mother. Quake. Credo che sia la prima volta che lo non avete ancora stoppato. Quindi andate con lui. Beh, sì. Perché no? Dice, io l'unica cosa, signori, vabbè, quello che potremo, noi lo raccoglieremo, ma abbiamo veramente poco per pagarvi. Però... Beh, questo vedremo poi, non importa. Intanto siamo qui per aiutarvi. Quel poco che possiamo ve lo offriremo, anche se sarà veramente poco. Questo devo dire. Non ti fregare le mani, ti sta dicendo che ci sarà un modo per... Intanto vediamo se possiamo risolvere il problema. Purtroppo non abbiamo niente. Noi siamo pescatori, signore. Possiamo pagarvi il pescatore. Ripeto, intanto vediamo se possiamo aiutarvi, poi... Vi conduce a una piccola imbarcazione e vi dice che potete raggiungere abbastanza velocemente questo piccolo villaggio con la sua barca, se lo seguite. Lui vi porta in questo villaggetto in una delle insenature, vicino a, in realtà al porto dove siete adesso, però... Non subito in vista, ecco. È un piccolo villaggio e lì arriva, c'è pochissima gente, però lui comincia a radunare un po' di gente, di quelli che sono appunto lì, e dice, ah, ecco, loro sono ho trovato loro ci possono aiutare, dicono tutti che hanno fatto delle gesta incredibili, hanno sconfitto un demone. Degli altri brutali assalitori e pisciato dentro una vasca. L'area del capitale dentro una vasca, i deboli li abbiamo uccisi tutti, ma pisciare dentro una vasca, no? No, e tutti dicono, ah, beh sì, ma ti hanno mandato qui? No, vabbè, insomma, parlano tra di loro e vi dicono, ah, guardate, quello che noi temiamo che ci sia qualche creatura o dei briganti, ma temiamo qualche creatura maligna che rapisce a volte notte tempo, eccetera, da questa spiaggia qua vicino. E non potete non stare in spiaggia di notte? No, nel senso, alcuni dice che proprio vengono, cioè le rapiscono durante la notte. Altri li hanno proprio persi durante il giorno nella spiaggia, quindi un po' tutte e due, sono un po' sotto assalto, diciamo. Ma nessuno ha mai visto... C'è chi dice di aver visto delle creature uscire dall'acqua... Solo bambini? Bambini, donne e anche qualche anziano scomparso. Ah, quindi sei solo tu a rischio. Tu sei un bambino anziano. Io posso fare... Infatti, per dire, io posso fare il bambino anziano e l'AS può fare il bambino e basta. Perfetto. Catta, tu devi fare la donna. Normalmente normalmente si, diciamo, durante il giorno, magari quando la gente è fuori a pescare, eccetera, appunto vanno in questa spiaggia e poi molti non sono tornati. Ah, mi viene spontanea una domanda. Giulio, cosa ne pensi nell'aiutare queste persone? No, Giulio non è lì. Ah, non c'è proprio. C'è già risposta. Basta il potesse, mi farebbe notare che sei molto cieco al fatto che lui è assente. Giulio, in realtà è non neanche. Ma in realtà, da chi è dico bonaccione come sta facendo adesso, avrebbe aiutato. Bonaccione? Sì, nelle intenzioni, poi in realtà, no, lui tipo gli fa: ehi, salve, salve, offesa di questo calibro a me? Tu sei cieco! E poi colpisce tipo con la lancia. Oh, e poi fa, adesso, vado a uccidere. Prendi questa moneta d'oro e gliela spacca in faccia. Non l'hai presa, come dovevi? No, è più o meno lo stesso. E va bene. Sì. Vi portano da questa spiaggia praticamente. E cioè, praticamente vogliono organizzare una roba tutti insieme per cercare sto covo che dovrebbe essere qui vicino, secondo loro. E uno di loro, appunto quello che vi ha chiamato, vi guida con lui lungo questi scogli alla ricerca di qualcosa. State proprio cercando, insomma. Chiedo se hanno una mappa per aiutarci. No, questi sono i nostri scogli, però non sappiamo bene dove si possano nascondere. Però adesso che abbiamo, diciamo, voi a guardarci le spalle, siamo più tranquilli, insomma. E proviamo. Io sto dietro e gli guardo le spalle letteralmente. Bene. Va bene. Muscolosi, prestanti. Bene. Dobbiamo fare perception. Mi fate un perception. Investigare. Di perception. Non investigare. No, 11. 17. Che fa qui? 6. Las. 6. Las, tu individui. Anzi, senti dei rumori strani provenienti da una sorta di conca sotto di voi, su questi scogli. Rendo partecipi tutti a rumori di che tipo? Dei rumori strani, tipo di suoni gutturali. Avvicinandoti, cioè, avvicino la caghetta lì sotto. Esatto. Avvicinandoti vedi un gruppo, praticamente tra gli scogli, un gruppo di creature mezzi immersi tra l'acqua e la terra, quindi un po' in acqua, un po' fuori, che stanno, creature abbastanza brutte, che stanno parlando tra loro. Parlando? Sembrerebbe, tra di loro, però da qua... E non ci hanno visti? Sembrerebbe per ora di no. Fatemi un tiro di conoscenza, di intelligenza. 18. 13. Aspetta, intelligenza o una conoscenza in particolare? Natura, no, aspetta. Sì, 18 di dado. Perché non tutte le abilità ho almeno un più uno, mentre l'intelligenza no. O 13 o 14. Ad ogni modo, alcuni di voi si rendono conto che questi sembrano dei Merrow. I Merrow sono questa bestiola qua. E sono tipicamente una razza di razziatori che vivono tendenzialmente, mezzi anfibi, non sono vulnerabili ai danni d'acqua, che vivono appunto nelle località di mare, a volte si cibano di anche di esseri umani. Quanti ne vediamo? Lì ne avete logica, tre. No. Ah no, al contrario. Questa conca sarebbe sotto gli scogli dove siamo noi. Voi siete su degli scogli e poco più in là vedete un po' come i Pokémon, diciamo. Okay. Sempre tra, diciamo, un piccolo anfratto tra gli scogli. Ok. Vabbè, lì per una bastonata. Possiamo, che dite, attacchiamo? Visto che non sono il tizio è sembra molto spaventato. Beh, sono comunque bestie. Ecco, potrebbero sicuramente essere loro. Sono comunque bestie. Attenzione, stare attenti, però questi sono mostri terribili. Ma la loro famicità è la stazione del terreno, cioè dobbiamo correre su degli scogli per raggiungere un senso. Da lontano, poi se vengono. Diciamo che sicuramente ci possiamo anche avvicinare silenziosamente. No, sì, però potete provare in qualche modo a prendere i sorpresi. Io proverei a lanciare con l'arco. Sì, da qui li puoi prendere, siete ancora un po' distanti, però. Quanti metri? Diciamo che loro sono lì. Sono lì fermi, potrebbero essere a guardia, non la vedete da qua, di qualcosa. Ringrazio. Potrebbe essere, però non lo vedete da qui. Beh, comunque io attaccherò da lontano, perché non sappiamo cosa c'è là. Sono tre. Piuttosto che andare là e rischiare che ci sia il mucchio. Diciamo che una strada per avvicinarsi in modo cauto, più vicino, ci potrebbe essere. Però bisogna essere molto caro. Il tizio la conosce? No, Laz la intuisce guardando. Cosa volete fare? Beh, il tizio lo lasciamo indietro, direi. Io con tutto questo... Il tizio è abbastanza spaventato. No, fa casino. Però dice che se volete naturalmente verrà. Ma è meglio di no, fa casino. L'ingombro della mia armatura non mi permette di passare molto inosservato. Andate in avasco. Toglila! Possiamo anche fare così, sì. Va bene. E poi andiamo a entrare quando i suoni della battaglia risuoneranno per la costa. Io arriverò il terzo giorno. Proviamo ad avvicinarsi. Allora, questi scogli non sono altissimi, quindi quando siete lì comunque siete abbastanza vicini, però diciamo sicuramente avete una visuale più buona se arrivate in quella posizione lì. Però non siete, diciamo, non è che siete su una scogliera, ok? Sì, ci possono arrivare addosso. Allora, intanto proviamo ad avvicinarsi. Però sicuramente avete una visuale migliore. Ci avviciniamo quatti noi tre, tranne. Sì, allora, direi che, in realtà, ai termini di gioco, voi potete fare una prova di gruppo. La prova di gruppo funziona che se almeno metà del gruppo riesce nella prova, tutto il gruppo riesce nella prova. Allora puoi venire con noi. Va bene, facciamo questa prova di sì, perché noi ti aiutiamo a non fare cazzate. È scritto perché sei torgia. Cosa dobbiamo provare? Stealth. Ok. Tutti stealth. Boom. Ho svantaggio. Sì. Io ho fatto 9, te lo regalo. Io ho più 3. Tu hai fatto bene, spero, no? Io ho fatto 15, furtività 15, 5, quindi 20. Anche tu 15. Io 15 totale. Lui 20, 15, 2 ce l'hanno fatta dipende due... dalla loro passo di personaggio. Sì, con le abilità vado forte. Quanto avete fatto, ditemi tutti? 9, 7, 15 e 20. 7, 9, 15 e 20. Sembra che non si siano accorti di voi. Avete tutti qualcosa da lontano, sì. Io farei il primo allo sprovvisto a sto punto. Dei dardi, però... 9,36, vuol dire che entro 9 metri normale, da 9,36 ho svantaggio. Qualcuno di voi sa l'acqua? No. Sì? Bene. Sentite che parlano tra di loro in una lingua che non capite. Che è simile all'orchesco, però. Assolutamente. No. È talmente identico che non capisci neanche una parola. Io so che nel gruppo c'è qualcuno che ha a che fare spesso con delle balene, quindi io... che non sono parano acquan comunque, perché sono mammiferi, sono comunque tre lì e... sì, senza, appunto, senza avvicinarsi direi che da lontano è meglio, se riesce a scappare ci può stare, in effetti, senza andare lì vicino a quello che stanno sorvegliando. Da dove siamo adesso si vede esperto in agguato. fatemi un perception. Basso stavolta. 9. Cazzo di dado di me. Fallo alto tu. 7. Ritorna al mio dado steampunk. Sono lì. Sono qui, sarà gli scogli. Mezzi immersi in acqua. E voi siete poco sopra di loro, ma loro non sembrano essere accolti. Poi direi di attaccare, poi vedere come agire. Facciamo un'iniziativa, dai. Parte un'iniziativa. Yeah! Uno più tre, quattro. Ah no, è un 12, ok. Uno, 15 totale. Allora, dico di tutto. L'As 15. 4. Sceo 4. 18. Catta 18. 5. E Salla come prima 5. Oh, faccio sempre 2. Ah no, aspetta, ho fatto 2, quindi 4. No, aspetta, fammi controllare. 5 5. Va bene, intanto potete cominciare con questa sorpresa a partire da carta. Ah, niente, io guardo, sguaino la spada e guardo gli altri. Non hai niente a distanza. Sì, ho dei giavellotti, ma non vanno così là. Quanto siamo? Che siamo appena sopra di loro. Che distanza siamo? Quanto va il tuo giavellotto? Controllo. Ma direi che lo puoi prendere. Dipende. Javelin 30 piedi. Che è 9, barra 120. Direi 9, che... 36. Ma se attacco prima del... Beh, no, io comunque con Assassinato ho vantaggio anche con chi non ha ancora fatto il suo turno, quindi esatto. È uguale per i critici. Puoi attaccare anche se si scoprono. Allora gli sparerò sta giavellottina a fare. Sì, quindi siamo in 9 metri. Sì, perché vale anche siete proprio lì. Cioè, si girano, ci sono anche loro. Figli. Ho anche segnato che danno fa. Cioè, proprio non avevo neanche idea di usarlo. No, ce l'ho. Ecco. C'era anche come si dice Javelin è qui Javelin un D6 piercing 17 più quanto? No, di base di 12 ok, ho già fatto sembrava un 17 17 prende. Faccio un grasso. Wow. 4 danni. Perché? Il 3. Fuori forza. Perché è un'arma con la capacità Thrown. Ah, quella è okay. La capacità Thrown dice... Allora, scusa, hai detto che hai fatto 17, giusto? Sì, sì. L'hai preso. 4 danni. 4 danni. Va bene. Ok. 4 danni. Io sparerei sempre a quello, tanto è uguale, su chi vado, anche se se ne è accorto. Vai. Non hai vantaggio. 18 più 5, vabbè. Potresti crittare. Ah, vabbè, lo ritiro. No, non è crittato. 18 più 5, 23. Sì. E ho anche critico qua. Ah, c'è già. Il furtivo. Quindi, sì, ho anche il furtivo, però l'assassinato okay. Mi dà vantaggio e critico. Puttana. Allora. 6, 5, 3, 8 e furtivo. 10. E furtivo. Più critico. No, ho il D6 di base che è l'arma, il 3 della A e il 2 del furtivo. Poi il critico raddoppi i dadi. Esatto. E i dadi o il danno diretto? Ah, il dado? Sì. È 4. 14. Del furtivo e dell'arma. Quindi c'era un dado in più. Era meglio... Quindi? 19 totale. Era meglio moltiplicare se c'era il critico. Perché, il modificatore non lo moltiplica. Solo il dado. Il critico raddoppi i dadi. In realtà tutto, fammi più male. Anche le abilità. Tutto. 19 totale. Ma non il modificatore. Ok. Sta a... Stallo. È ancora vivo? Sì. Salva? Sì. Ha fatto 19 danni, giusto? No. Quanto sono distanti? E lui ne ha fatti? Sono 9 metri. 19. Più o meno. 4 sono 23 danni. Voglio vedere se qualche resistenza. 23 danni. Ah, lui ne ha fatti 4 e lui ne ha fatti 19. Prova a lanciare un pugnale su quello ferito. Vai. E mi sa che ero misso di brutto. E 9. 9. Molto bene. E sì. Sì, l'ho misso di brutto. No, hai fatto 9 per colpire. Sì. Ah, scusa, non ho capito. No, beh, l'ho sprovvista. Non c'è nella 5 la pigli in culo e basta. Cosa? Sceo. Tiro un dardo. Sì. Sì. 24. Preso. Ti faccio tantissimi danni, tanti. Sei pronto a scrivere? 6. Molto bene. E quanta vita hanno? Bonus action, ovviamente, perché direi di non poterli. Posso un pugno da 9 metri? Sì, ti puoi staccare, interagisci col tuo polso, lo strappi e glielo lanci. Tanto per come hai messo il mio polso, non si va bene. Ci sono accorti che ci siamo. Uno di loro sembra che si è accorto che sia uno. Sì. Allora, facciamo. Come funziona a recuperare mentalmente? Sta ancora a gatta. Recuperi la metà se hai il tempo di recuperare. Gatta, sta ancora anche per ridarvi. Cioè, ok, sono prima, agisco prima di loro. Gli tirerò un altro giavellotto. Puoi scendere in acqua se non combatti. No, pure no. 13. 13? No, 15. 15 non colpisce. Oh, 9 danni. Molto bene, sembra solito immagino. E anche per i dardi vale, cioè eventuali armi da lancio, perché i dardi sono come dei pugnali nel senso. Sì, qual è la domanda? Per recuperarli? Quelle, no, questo è per le munizioni. No, infatti dicevo per questo. Per le armi, se hai il tempo di recuperarle, le recuperi, suppongo. Capito, vezzino? Vediamo. Perché vale anche per i tuoi giavellotti. Aspetta un attimo. Cosa? Per recuperare i dardi, i giavellotti, sì, sì. Queste cose. Deve tirare dopo. No, non te la tirare. No, quelli li recuperi. Per le munizioni, quindi sì. Con l'arco, recuperi la metà se hai il tempo di cercare. Ah, certo. Sì, beh, come era. No, la tiravi una volta. Prendendo un minuto, la tiravi solo quelle delle munizioni magiche. Quelle normali, le spaccavi e basta. Invece per dardi, giavellotti, così, non lo so. Cioè, sono come allora, quelli recuperi sì, il pugnale, cazzo, vai a recuperare il pugnale. Secondo me se hai tempo, ovviamente. Ah, sì, ok. Va bene, loro si accorgono di voi, vi vedono lì, e questo non gli piace. Vi sibilano, grugniscono qualcosa, vi sibilano qualcosa. Io, sapendo l'orchesco, e lanciano a... Però il tono lo capiamo, il tono con cui si rivolgono a noi. Beh... lanciano a Sheo? Cioè, non è che ci dicono dolcemente qualcosa. Lanciano a Cabe, a Sheo e a Katta, ognuno un... Non ti sei nascosto, Cabe? E come in faccio? Cosa? Devo perdere la mia azione per nascondere. Quello per Cabe è un 24. Penso che qualcosa tirano. Un un arpione. Ottimo, devi avere quei attiri. Spiedino di Cabe. E... neanche a schivarlo. Ti fanno schivi? No. No, non sto neanche a schivarlo. Ti fanno 13 danni. Vabbè. E tirano su Sheo, ma il dardo praticamente cade nella mano, non so, è quello essere... ferito, praticamente gli cade in acqua, cioè, scivola letteralmente. Vuol dire fumble, sì. E poi vanno su carta e non penso che lo colpiscano perché fa 14. Sarebbe stato bellissimo, sai come funziona. Dopodiché praticamente sulle armi da lancio tutte e due, tutti e tre, vedete che si inabissano sotto e scompaiono sotto praticamente lo scoglio praticamente. Oh, ce l'hai sta cosa dei nemici che se ne vanno? Sì. Il che però vi fa intuire che sotto potrebbe esserci un'apertura, però subacquea. Non sapevi che respirassi. Ciao, vabbè, grazie amico, ci abbiamo provato, adesso sai qual è il problema. Ma gli ho anche preso un cazzo di cosa in faccia, grazie. Gabe, sei ferito, vieni qua, gli do una manata sulla spalla, gli curo... Quanto ti manca? 13. Vabbè, gliene curo 7. A discrezione tua. Ho un pool di 15 PF da spendere. Sì. Li avete visti passare sotto? Beh, ma niente, li catta. Perché comunque sì, non ti servono. So 26 cure. No, vai tranquillo. Chi è il più esperto di acqua, di mare e via discorrendo? Essere un pirata e avere un'armatura che mi farà affondare. No, non fa affondare qua. No, però quello che sicuramente avete intuito è che l'acqua lì, per chi non è un halfling, l'altezza, cioè, non è tanto alta. Ecco, un halfling sicuramente un po' deve notacchiare. Cosa vorresti insinuare? Oppure salire sulla schiena del pirata. Che già ti ci vedo. Sarà 1,20 m d'acqua. Dai, stile cagnolino e si va via. 1,20 m se metto sulle punte ci arrivo. 1,30 m d'acqua. Ma le punte molto lunghe. No, sì, tu arrivi un po', puoi saltellare, sì. Però, quello sì. Bellissimo. Però poi... giù, andare giù, chi lo sa. Ma mandare in avanti scoperta il pirata, no? Visto che tocca anche, non deve nuotare. Mettere la testa sott'acqua e guarda. Mi hai preso per un'esca. Ora faccio una domanda al master. Molto stupida, stai pronto? Già ride, vabbè. Nella mia cultura, nel senso, nella cultura generale, esistono... Sei stato nei monti per tutta la tua vita. Appunto. Cos'è questa cosa bagnata? La domanda che essendo io completamente ignorante riguardo l'acqua, esistono equipaggiamenti per andare sott'acqua che possano aiutare a respirare? Sì, i polmoni, i danni in notazione alla nascita. Cari, qualcosa, visto che sono... I pirati. Il mio personaggio chiede al tipo questa cosa. Ma probabilmente ci sono alcune magie, magari che possono. No, io parlo di attrezzature. Magari loro hanno qualcosa. Sì, esistono delle attrezzature che quelli delle paludi usano spesso. Praticamente sono delle canne e se le mettono così e vanno sotto e respirano con la canna. Ah, grazie, non lo sapevo. No, cioè, lo sai, però per te è già tanto, voglio dire, la palude non l'hai mai vista. Wow. No, okay. Anzi, io direi che è una cosa che potresti fargli presente. A chi? Okay, al pirata? Seriamente? Sì, ci ho capito. A me, raga, niente, è bagnato, io lì non... Come ho detto, se andate lì praticamente voi toccate, cioè, sono un montanaro, qui state chiedendo di non niente, cioè, bagnato. E poi sotto chi lo sa, tecnicamente sono allenato, è abbastanza atletico, ma non so se so nuotare, dal mio background non so neanche come è fatta l'acqua praticamente. Cioè, l'entrata sembra essere a pelo con l'acqua. Allora io quello che faccio è torno dal tipo che ci ha detto di andare a cercare i bambini, se è lì. Io posso farvi per esempio una cosa. Che ora non sono in scienza i nostri 5 sensi. Se non sbaglio c'è un incantesimo che potete usare. No. Ma invisibilità, ottima idea, bravo master. No, sì. Respirare sott'acqua. No, intendi invisibilità davvero? Se il vostro problema è non farvi vedere... No, pensavo cosa stesse per dire lui. No, volevo andare dal tipo... No, la mia era una roba GDR. Volevo andare dal tipo che ci ha arruolato. Ti ha arruolato e ucciderlo per la sua istoria. E dirgli che... visto che... troppo per vincere per noi. Vabbè, allora fottetevi. No, dai, dimmi. Vuoi andare dal tipo? Ciao. Dai, ho fatto una battuta, non ti incazzare. Volevo andare dal tipo che ci ha arruolato e chiedergli, visto che... probabilmente è una roba sott'acqua, se mi teneva gli strumenti che non volevo che si bagnassero. Certo, dovete stare molto attenti, loro in acqua sono temibili, però la speranza è che se magari ne hanno tenuto qualcuno vivo, lì sotto si possa respirare, ecco. Comunque certamente terrò i tuoi strumenti, Gabe. Vabbè, a sto punto anzi, è un onore per me, ci mancherebbe. Grazie mille. Direi che siete molto coraggiosi. A sto punto anch'io ne approfitto e gli affido lo zaino. No. Ti è sembrato una persona molto sincera? No, più che altro magari serve un torso. So che arriverà bagnata. No, beh, se c'è una grotta. Sì, però la... arriverà bagnata, però. No, penso a quello che voglio nello zaino. Quindi no, io lo zaino. Se c'è una grotta, capito? Puoi anche lasciarlo andare tracks. Sì, per non fare una roba così al massimo. Ma io comunque lui sì, ti tiene gli strumenti, assolutamente. Ma sì, anch'io gli do qualcosa. Cioè, io mi posso. Ma gli lascio anch'io lo zaino, vabbè. Ma dice, forse è meglio se chiamo gli altri? Altri? O resto qua a guardare le vostre cose. Ma secondo me puoi anche tornare al villaggio e poi torneremo noi. Magari vado a dire agli altri. Quindi si prende i tuoi strumenti e va a chiamare gli altri? Sì, prendi i miei strumenti per me puoi anche tornare al villaggio. Gli dai lo zaino? Vuoi prenderti qualcosa? Vuoi lasciare lo zaino? Vabbè, su? Io gli do solo gli strumenti. Ok. Io gli do lo zaino ma tengo le armi, ovviamente. Che si rovinerebbero in acqua e gliele do. Io ho il kit da cartografo, quindi avrò le pergamene, le cose, vabbè, quella roba lì. Io non ho niente, faccio prima dargli direttamente lo zaino e tengo con me i dardi e il bastone. Sì, sì, va bene. Io me la tengo la roba. Va bene. Poi? Poi niente, prendo insegnate a nuotare. La corda la leggo ad uno scoglio e me la leggo in vita. Prendo lo scoglio, lo butto in acqua. Lo scoglio sopraelevato e faccio un personaggio nuovo all'ingresso della grotta. Ok, Aquan, però sarebbe comodo. E poi mi calo due pasticche così. Come vi ho detto, cioè, se voi andate giù qua a questo punto, toccate. Sì. Non c'è bisogno di... Nel senso, cioè, lo stai facendo come se stessi potessi affondare qui, ma non puoi affondare qui. Ma cosa ne so io? Te lo dico io, cioè, li hai visti in piedi qua. Cazzo! Sì. Scusi. Sarà un metro dopo va giù. No, in profondità giù sì. No, però per dire... Ok, non lo capisco. Tu sei lì sotto con l'acqua qua, sì, qua, esatto. A linguine. Ah, ok. Però non so se un metro dopo va sì, giù. Sì, no, va bene, d'accordo. No, per questo. Ok, comunque tieni attaccato. Quanto è lunga la corda? Che sembra 50 piedi. Ma voi dove siete invece voi altri? Sì, 50. Io sono ancora lì. Cioè, io aspetto che lui affondi o che lo ammazzi. Voi siete tutti sugli scogli 30 sopra. 30 sono 9, 50 sono 15. Tenete presente che lui se va dentro voi non lo vedete. Beh, aspetteremo. Però se esce un coso rosso non entro anch'io. Un rivolo rosso. Tenete in mano la corda, quando do due strattoni venite anche voi. Va bene. Perché sembra tiri scemo. Giù lo scoglio e fai crollare tutto. Quindi voi però, siete dagli scogli più in basso adesso, qualcosa del genere. Quindi tu la corda la lasci attaccata allo scoglio e la dai a noi. Legata. Poi la vedi. Se non hai bisogno di allontanarti in quella direzione, corri, cioè, ti porti dallo scoglio. Beh, torna. Ti leghi a uno scoglio fisso. Vabbè che tu dici, posso slegarmi quella corda. Cioè, anche perché non è che ha avviato da... La logica era facile, ok. Niente, ho detto una cagata. Catta mi fai una prova di nuotare con vantaggio. Ma sei detto che si tocca? Ma ha detto che va giù. Si tocca. Il problema è questo. Voi siete a toccare qua, ok? D'accordo. Però l'entrata è tipo qua. Ah, e vai di lui, esatto, deve tipo nuotare. Ah, ho capito, ok. Dentro. Sotto. Underwater combat. Ecco, okay. Dire. Ti vorrei far nuotare. Ma tu hai... Che l'armatura è pesante. Cioè, la vedete l'entrata? Tipo, quasi all'altezza del... Come se fosse una Thanos. È quasi all'altezza, però va un po'... Sì, cioè, certo. Per andare devi andare sotto, insomma. Allora. E tu vuoi l'alternativa che puoi fare è, se vuoi, puoi provare a gattonare giù. Però allora, in quel caso, mi fai una prova di costituzione per tenere il fiato. La puntata che ho tirato a Garfoglia è bella. Se no, mi fai una prova di nuotare un po'. Se do tre strattonate, dovete tirare la corda per ritornare indietro. Ce lo dici così. Se ne vuoi fare. O provare ad andare giù, tipo, così... E vedere cosa succede, e allora mi fai una prova tipo di costruzione per trattenere il fiato, per vedere quanto in là riesce ad andare. O in alternativa mi fai una prova per di nuotare e vedi un po' cosa riesce a nuotare. In teoria sei forte. Nuotare Athletics. Nuotare Athletics. Hai svantaggio per l'armatura. Vi faccio notare che non c'è scritto da nessuna parte. No, non hai svantaggio per l'armatura, non cambia un cazzo. Al nuotare. Sì, non cambia un cazzo se l'armatura. Beh, secondo me però ha senso che tu abbia sbagliato. Da regolamento non cambia nessuno. Però se lui dice così, io non possiamo dire niente. No, no, beh, certo, però... Soprattutto perché comunque è un... Però è fatta di crostacei questa ma... No, è che il fatto... No, è che secondo me il manuale dà per scontato che tu sia addestrato a tenere l'armatura, quindi la indossi come se non fosse un problema. L'unico problema che ti dà è il rumore quando ti muovi. Secondo me ci può stare un po' come un marino. No, vabbè, facciamo una cosa. Tutto. Il concetto è allora, tanto tu non è che affondi. Se tu sei se la professione vuol dire che in questa situazione non è che affondi, però il problema è che è un po' un pertugio. Ok, cioè, è un pertugio, non è piccolo, perché loro comunque sono grossi. Ok, cioè puoi dargli svantaggio perché nuota, però è bassettino, quindi comunque devi fare un po' la nuotata. Io lo svantaggio onestamente te lo darei, okay, non è per la stessa, se tu nuotassi libero un discorso non posso dire sono... niente, no, ha senso, dai, fai 20-20 così lo sbattisci, però se tu mi dici boh. Ma 9 no, vabbè. Non è che non nuoti, ovviamente. Una bella boccata d'acqua. No, aveva un fallimento su D&D. Cosa? So niente. No, dipende dalla prova. Se la prova. No, in teoria il minimo, il minimo su manuale è 10. No, no, c'è anche 5. In realtà. Non è che non riesci a nuotare, semplicemente ci mette un dov'è po' 5? Di più. 5 è facile. Non credo proprio. Perché deve andare contro i tuoi compagni per vendicarsi di prima? Ah sì, 5 è very easy, bravo Bez. Very easy. Non è, ma in questo caso qua io non è che gli faccio una prova perché no, non è no, che ma lo dicevo per dire non questa era... prova specifica lui non è che può affondare, io voglio solo vedere lui quanto agilmente diciamo riesce ad andare avanti e non è particolarmente molto agile per andare avanti. Tutto sì, ma non ero, non ci tenevo davvero a farlo fallire, era per ridere. Grazie. va, cosa fa il pertugio? Risale? Allora, tu vai avanti, piano, molto piano, riesci, a un certo, riesci praticamente che emergi, cioè vedi che finalmente a un certo punto finisce questo pertugio, emergi, solo che il problema è che non sei stato molto agile e quindi ti trovi di contro un tizio che ti tira un bel colpetto. Aia. Vedo solo lui o c'è anche dell'altro? Beh, intanto ti prendi il colpo da questo che però mi colpisce. Ti fa 14, non credo che ti prenda. Tu riesci a andare in piedi, sei tipo un po' fuori dall'acqua, okay. Poco però. Lui ti fa 14, quindi non ti colpisce con un morso, ma prova a tirarti anche una artigliata. L'artigliata non ti prende perché fa 16, tu hai di più. 19. Cazzo! Oh, merda. No. Ma non è un problema, perché c'era un problema. Fagli sentire la presenza, cazzo. Ti do uno strattone alla corda. Tu... No, così il morso non ti becca. Ah, ma c'è un altro davvero? Finalmente ti fa un critico. Porca troia. In effetti se mi colpisce fa 19. Allora. Ah sì, in effetti è quasi... Con i close. A pochi punti sul dado. Ho detto il D4. È il terzo critico. Vabbè, tira dei D4. Però, sì, dipende quanto. Ah, esatto. Devo raddoppiare. Esatto. Allora, andate. Accesa. Okay. Allora 7, 8, 12 danni. Non devo raddoppiare la forza. No, solo i danni. 12. Adesso 20. Noi vediamo che strattona? Assolutamente no. Sì. Vedete, strattoni la corda, giusto? Strattona la corda. Quindi scendiamo. Vedete la corda che si strattona. Sì. Ora direi che possiamo fare un'iniziativa. Nuova, dai. Anche o voglio tenere quella di prima? Nuova, nuova, dai. Nuova. Nuova. Nuova. Oh, 19. Sì, ho fatto 17. Dai, però non è possibile. Carta 8. Carta 8. Fammi indovinare. 5. Salla 7. Beh, migliorato, miglioriamo. io sono anche agile, io nuotare non l'ho mai fatto prima. Allora so nuotare. Vabbè, sì, dai, adesso scherzi a parte. Ma questa, sì, questa non è neve. No, sì, però hai detto che... No, vabbè, nei laghi, dai. Hai ragione. Vabbè, ti la farò fare con svantaggio. Ma sarà un cazzo di lago dove è nato? Sì, in teoria sì, c'è un lago. Qualcosa, sì, no, sì, dai. Sì, no, te la faccio fare normale. No, tu me l'hai visto così. Anche il lago. Sì, sono più... Va bene, ragazzi, direi che sta a Laz. Vado giù. Mi immergo e... Fa bene. Con acrobatics, hai detto? Si faceva? Ah no, per scendere giù. Sì. Con cosa? Non lo so, più che altro. Per nuotare quanto è la distanza che devo fare? Ti muoverai dimezzato, non so. L'hai fatto fare a lui? E lui ha fatto fare la prova. Però sì, era più per vedere un po' se faceva in modo goffo. Io ho anche la cunning action. Posso fare il movimento doppio. Direi che se non fai cose strane puoi fare, puoi semplicemente ruotare senza tirare. Ah, ok, va bene. Faccio tirare, dai. Ma quanto distiamo adesso da lì? Adesso ci metterete un turno a arrivare lì. Okay. Allora, sotto campo. Quindi faccio... sta a dopo l'As, a Sheo, che va in coda, mi sento lui. E Salla. Beh, in realtà poi, vabbè, direi che emergi poi, dove sì. Puoi emergere lì, ecco. Fai due, vedo lui che combatte queste cose. Ti prendi sì, emergi. Anche... emergi di fianco. Stanno di fianco giocando a gioco delle talpe. E anche io. Al contrario, però. Poi tocca a loro. Un gioco che si vedono anche della nuova gente. Arrivata. Cosa ti avevo detto? Salla ha fatto 7. Scusami, non è un turno come prima. No, scusami, no, pensavo un turno come prima. Allora abbiamo un turno di sorpresa. Allora ci sono i due che hanno su Katta ci hanno proprio sono incazzati. Sono quindi vogliono provarci. Hai due tutti cozzi. Allora uno ti becca, però direi. Cosa dici, bravo? Direi che sei mica solo io. Sono 7 danni. Riduzione del danno 3. 7 danni. Katta. Il secondo, sempre su Katta, va sempre a colpire. Col secondo, 19, che è sempre che oltre a 19 in CA anche riduzione del danno. È buon per Katta. È giusto così, se no saremmo morti. Buon per Katta. 7 altre 7. Poi praticamente siete arrivati voi due lì. Però quello che succede e che vedete due serpentoni che sotto la superficie nuotano sotto di voi e provano a zannarvi. Cazzo, quanti sono? E qua succede tutti. Ma non lo colpisce. L'altro va su Laz. Ma non lo colpisce. Dipende Laz quanto 14. Allora uno lo colpisce. Un attacco lo colpisce. È il morso. E il morso tutte cose diverse. Il morso gli fa 11 danni. La Madonna, una mezza vita. Ricordati che hai disimpegnare come azione gratuita. lo so. Un po' ricordo, è importante. Impara dagli errori altrui. Farvi tirare da loro, vabbè, non lo posso dire. Vai. Quindi ne abbiamo 4? Siamo 4 contro 4? Sì, per ora sono 4. Notiamo che sono quelli di prima con quello ferito o no? Allora, sì. Uno in più, però perché erano uno tre. In più, per ora. Per ora. Tratta. Non è molto corretta una cosa del genere. Non è molto allora, bello, infatti. Emergo dalle acque. Allora, come la Venere. Siete in questa piscinetta, praticamente. Bello, piacevole. E... tipo alle terme. Però adesso che ci penso... c'è qualcuno che in realtà deve nuotare. E vabbè, se ci pensiamo. E... beh, ci si può defilare e tirare da lontano. Tu però vedi dei punti dove forse potresti, ecco, riuscire. Però devi nuotare fin là, sicuramente. Cioè magari ai lati. Sì. Un po' così. Sì, sì, sì. Dopo poi più avanti un po' sembra che sia un po' più... però per il momento è una piscina nella penombra. La piscina dei bimbi è di là. È una piscinetta nella penombra. Vabbè, torno su e vado via. No, tu non sei ancora lì. Non hai detto così. Hai nulla di questo. però sta carta che c'ha due addosso. Ho due addosso. Allora, emergo dalle acque con una frase molto ad effetto tipo "Luce dagli abissi". Mi tocco e... Cosa? Che schifo, cazzo. Luce e mi curo. Mi curo 12 PF. Mi tocco. Quanto sei messo a PF? Adesso ne ho 27. Ma non ne avevi già dati a lui? No, non li ha voluti. Ah, ah, quindi siamo tutti feriti anche su. Ok, bene. Come, come? Tu vuoi morire direttamente? Tutte quante sono morire da un cimitero. Io sono anche a terra. Eh? Io sono anche a terra, quindi frega, ciao. Ah, no, non ci hai seguito proprio tu? No, ancora grazie. Non è mica stato il mio turno. È l'ultimo in iniziativa. Ah, è vero. Tanto per... Mi rimango in corpo a corpo. Immagino che la... Cioè in questo momento per arrivare dove diciamo più sull'asciutto sì. Dovresti proprio disingaggiare. Allora niente. Ah, come azione bonus in effetti posso fare questa cosa. A meno che tu sì, cioè oddio. Come azione bonus lancio. Ecco, la cosa che puoi fare però poi ti becchi degli attacchi e provare a sollevarti sulla roccia sopra però un po'. No, faccio questa cosa. Cioè voi siete praticamente sbucati qua e siete in questa piscinetta qua, poi un po' più avanti sui lati, non tanto lontano, ci sono dei punti dove magari ci si può stare su degli scogli, ecco, quello sì. Questo è. Come azione bonus posso usare il mio focus divino. E quindi... Vengo di nuovo. No. Farò, esatto, il giuramento di inimicizia. E... No, non era questo che volevo fare. Voglio fare quello che si caga in mano. Quello che si caga in mano è più schifo in acqua. Vabbè, è una... anche a terra fa schifo. Chiaro, vabbè, ma ci sto anch'io in quest'acqua adesso. Quella è un'azione, l'ho già usata per come curarmi. Come piscina. Okay. No, faccio l'Hunter's Mark. Sì. Lo marchio e quando lo colpisco gli faccio più male. Fammi controllare che sia un'azione bonus. Esatto. A quello ferito gli faccio quando lo colpisco un D6 in più e vantaggio alle prove di perception e survival. Io per trovare un altro. Questo c'è la possibilità che in teoria lo ammazziamo. Quando muore, posso usare l'azione per spostare il marker a uno nuovo. Cosa succede quindi su questo? Ha una X sulla testa sì. E quando lo colpisco faccio più danni. Va bene. Ma solo tu. Sì, solo una X sulla testa. Sta salla che è ancora fuori. Vabbè, io sento che c'è un po' di miscasino, quindi non tu hai visto i tuoi compagni eroici che si sono buttati senza temere nulla per aiutare il buon Katta che ha tirato. Sta aspettando il suo mojito sul lettino. Questa sarà un'ottima storia, se ne va. più o meno farò così. Comincio con una piccolata per vedere se riesce ad avere una migliore visuale. Comincio a scendere anch'io. Sì. E cosa vedo? Provi a andare per il cunicolo? Sì. Va bene, emerge anche tu nel gruppetto e vedi un macello. E vedi un posto dove non è piacevolissimo stare. Ci sono Katta, Shigeo, Quake, giusto? Sirron e Eric. Eric così come te state nuotando alla disperata per stare a galla mentre ci sono dei mostri si mangiano mentre Sirron e Quake riescono a stare in piedi comunque senza hai detto che comunque non sono lontanissimi da sta zona dove stare un po' in piedi. Senti, ma ho una domanda. Quando è il mio ti dico cosa faccio. Sì. E diciamo che non è un bel posto dove stare. A cui festate? Ma io ho la mia azione. Tu hai fatto il tuo movimento? Direi che per arrivare devi fare due movimenti. Quindi no. L'azione bonus. Beh, anche noi non abbiamo fatto niente. No, infatti direi due movimenti per arrivare ci sta. Azione bonus? Niente. Su cazzo forse era meglio se restavo di sopra. Va bene. Dopo Salla sta a Laz. Allora, io uso la... Poi addosso uno. La, uso l'azione bonus piccolo, per disingaggiare e andare verso il sì. posto. Io non lo so se sì, funziona uguale come abilità acquatico, che se l'hai guardato. Va bene, facciamolo ad occhio così, poi al massimo ci guarderò. Disingaggi. Okay, arrivato. E hai svantaggio? No, cosa? Secondo me è tipo svantaggio al tiro per colpire. Vabbè, tanto non ho neanche l'arma in mano. Quindi... No, ma te ne vuoi fare? Vuoi, tu vuoi allora, disingaggiare? Io disingaggio. Okay. Arrivo su uno di questi posti che mi hai detto, no? Sono a lato della piscinetta. Sì, fammi una prova di nuotare, perché tu devi nuotare. Cosa, dov'è nuotare? È atleta. No, 8. Rimani in acqua. Allora, uso l'azione di movimento per muovere quella non bonus. Cioè, tu disingaggi, poi dovresti nuotare più in là, diciamo. Diciamo che riesci a disingaggiare, ma non riesci ad arrivare bene vicino a, al coso. Cioè, annaspi un po', riesci a disingaggiare, ma non riesci ad arrivare bene. E allora, se non posso più muovere, intanto tiro fuori l'arco. Basta. Sei in acqua. Intanto lo tiro fuori. Va bene. Sta a Canta. No, Ceo. Io sono in piedi. Yes. Quindi comincio a bastonare la gente. Tanto ce l'ho addosso uno. Bastone. Sì, ce l'hai lì tra le gambe che ti mordi. Bastone, allungati. 15. Sì, questi sono grossi comunque, sono questi grandi, quindi occupano spazio. Se fossero dei pesciolini. 8 danni? No, no, è grande, sono grossi, sono grossi. 8 danni? Allora quel cazzo che entra? 8 danni? Ah. Sì, tu l'hai fatto, vabbè. Quello che mi era addosso, non so. Comunque un altro. E poi ma... gli do il colpo col pugno. Vabbè, una total party kill ogni tanto. È del terzo della serata. Cos'è il fumble? E tabelle, ragazzi, la prossima volta. Va bene. Che per la legge dei grandi numeri non dovrei fare altri fumble. Poi vediamo. Uso... Non credo funzioni così la legge dei grandi numeri. Esce. Esatto. Sì, uso tutto qui per aver schivato. Sì. Dopo Sceo sta alle bestie. Alle bestie. Le bestie. Beh, i due vanno su K. Apri chiuso parentesi, finito il combattimento io vado. Sì, sì, è qualunque cosa vogliate fare. Finito questo vai turno. Vai a rifare la scheda. Combattimento, dai. Ah. Vado a rifare la scheda. Ah. No, veramente? Scheda uno colpisce. Mi pare che l'unico a non avere ferite sia io. Comunque, io a parte giù. Se lo sto chiamando ancora. No, adesso non ha cercato. Però ho fatto tre fan. L'altro vediamo. È andata benissimo proprio, dicevamo 20. È andata bene. Allora, 20, primo col morso sono... Sei messo? 23. 9 danni e poi andiamo. 6. Oh. Vado a 17 di nuovo. Però è tosta. 6, 8, 12 danni. Il curatore dov'è? 12 danni. È arrivato giù adesso e sta nuotando. Danni quindi non si avrebbe curati dai, comunque sono 8 PS 32 Giulio vabbè una cura poi c'è quello di Sceo 16 usati hai usato svantaggio ok uso questo come se fosse svantaggio diciamo così e schivare però ti colpisce comunque fantastico però non colpisce due volte cioè nel senso erano due colpi vabbè, ok un colpo è così vabbè se no facciamo così questo conto come, perché solo su un colpo vale o tutti i colpi tutti quelli che allora lo conto così attacchi. E questo ti colpisce e io e il morso sono 12 danni è giusto per informazione ti risolvi tra destrezza o vantaggio il secondo tiro con svantaggio non ti colpisce quindi uno solo poi c'è l'altra bestia e l'altra bestia boh inseguirà non mai detto i danni la scritta avete 12 scusami no. E... come 12? Non ti ho detto danni, sì, ti ho detto 12. Sei pieno di bestie, cos'è 12? 12 a terra. Allora ritiro. Ma poi sempre no, scusate, a me non mi allora ritiro 20. Va bene. Ma scusami, hai usato anche Anni Dodge? Sure. Cosa ho usato? Anche Anni Dodge. Simile. È simile. Si chiama schivare, in poche parole hanno svantaggio tutti gli attacchi. Figo. Questo turno, sì. Se io lo vedo. Figo. Su tutti? Sì. Qualunque attacco io subisco. Per questo turno. L'altra bestia va su di te. Ma alla fine però è un punto. E ha svantaggio anche lei, giusto? Esatto, tutto, tutti gli attacchi. Però si colpisce. Svantaggio vuol dire che devi tirare un dado e ti schifoso. Fa 9. Sono chiamata di brutto. Poi va di nuovo, quanto hai di armatura? Secondo me come se andiamo via. Si colpisce. Io me ne vado e racconterò la storia di come... No, vedate. Rega, sono a 4. Ma sono quello meno felice. Si può la soddisfazione. Questo cos'è? No, GS12? No, in realtà... No, vabbè, forse che sono l'altro. Forse che me ne ho messi troppi, dai. Cazzo. Vabbè, tranquillo, Vez. Vorrei che l'asa andiamo via. Chi tocca? Tocca a te. No, che cazzo dico? Sì, mostra finito. Oh, Goliath Barbara, io l'ho detto. Qual è la situazione? Ne ha due addosso e gli altri due sono sciusci. E quelli, quello ferito dov'è? Su cui ho fatto il marco. Su di te, però. Su di me, che è quel che gli abbiamo fatto una caterva di danni prima, sì. No? Sì, beh, non è morto, penso agli altri. Quindi, che sono uguali. Un ceffone. 11. 11 lo colpisce. Oddio. Bene. Cosa hai fatto? Alla, pensaci tu. Sì, Aspetta, aspetta. Thunder Wave. Sta a salla. Allora, io super in character, come sempre. Faccio una cura su Katta. Cura lo pieno, almeno. Sì, cura lo pieno. Una cura di secondo livello. Occio. Il fatto è che lui ha probabilità di riuscire poi tiri salvezza morte, io no, quindi considerando il precedente salvezza morte è un tiro pulito comunque, ti tiro ti curo di 13 punti ferita più carisma 16, quindi 16 totale. E poi ho qualcuno ingaggiato, Vez? No, però sei lì che attacchi. Puoi nuotare fino a uno scoglio, se no che c'è lì. No, c'è torni indietro. Ah, torni indietro? In serio? Sì. Va bene. Fammi un... Boh, vabbè, dai, ce la fai. Una prova di nuotare? Ma l'ho fatta fare all'AS prima, ma era più perché era nel combattimento. No, per più per arrivare allo scoglio bene. Hai un percezione per vedere se senti l'insulto. Però ritorni indietro, se torni proprio indietro, no, vabbè, dai, ce la fai. Io senza offesa, ma credo in questo momento tu non stia guardando me. Ce la fai, dai. Però arrivi a metà cunicolo. Probabilmente la mia vista è un po' rossata dal sangue. Ok. E sta a... Me. L'AS. E rifaccio prova per arrivare su... Adesso basta che mi fai una destrezza anche solo, o un acrobatics per scalare su arrivare sul coso. Cioè, ma io non volevo arrivare sullo scoglio, io volevo arrivare sul bordo della piscinetta, ti dicevo, no? Hai detto volevi andare sullo scoglio. No, sul bordo io da come me l'hai descritto ho capito che c'è praticamente questa entrata della grotta, cioè, che sarebbe l'acqua bassa della piscinetta più il bordo. Cioè tu prima ti sei disingaggiato per andare là. E diciamo che poi hai fatto una prova di nuotare che però non ti è riuscita bene e sei rimasto un po' lì, diciamo, non avvicinandoti bene. Adesso però non sei preso in combattimento diretto, quindi ti puoi avvicinare dove vuoi. Io vorrei andare verso il bordo. Sì. E userei l'azione quella bonus per arrivare lì. Sì, ma puoi andare, si puoi anche stare sullo scoglio. E posso farti un percezione come azione? Cosa vuoi fare perception? Volevo capire se sarà un qualcosa per nascondersi lì, visto che non sono in mischia, se no sono fregato. Dietro lo scoglio, siccome c'è anche un po' di penombra, potresti nasconderti. Okay, allora... C'è il vantaggio che la luce arriva esattamente, arriva da fuori, quindi illumina esattamente la zona dove stanno combattendo. Ecco, questo qui lo vedo, Così io devo farla come azione in questo caso. Come bonus action tu puoi nasconderti se lo sbaglio. No, dice. No, questa azione di perception per trovare. No, non devi fare perception. Allora visto che ho l'arma in mano attacco e poi mi nascondo. Sì. Allora attacco uno dei suoi due colori allora, così momento... ne tiriamo giù. Uno si spera. Allora, allora in questo carico. Momento tu non ho furtivo. Sì, è in corpo a corpo con me. Il problema è questo, tu anche se sono lontano solo. Il problema è questo che tu in questo momento, allora, arrivi e il bordo della cucinetta c'è lo scoglio, quindi sì. Tu o ti issi sullo scoglio. Non vuole salire. No, io poi mi sarei lo so detto... che non sta in piedi, capito lì. Questo è il discorso. Cioè, per o va in fondo e allora deve fare due movimenti per arrivarci in fondo e forse lì, oppure si issa su uno scoglio adesso. Allora io posso fare così. Con un acrobatics e basta. Faccio due movimenti e attacco e per questo turno non mi nascondo. Con il movimento in più. Va bene, con il movimento in più arrivi in fondo e lì riesci a toccare effettivamente. Ok, attacco. E poi nasconderti. 18 più 5, sì. 23. Preso. Su chi hai attaccato? Quello ferito, sì. E ho anche il furtivo se in corpo a corpo con lui. Sì. Ti è piaciuta questa? Allora. 3. Ma tu spari il marchio? 6. No, 12 totale. Sì. Anche se muore non durante il tuo turno. Sì, sì. E ti rispondi? Fai una prova di rispondere. No, ho fatto due movimenti. Cioè, penso, sì. È la bonus action. Due movimenti. Bonus action e poi fare una scuola. Ah, ok, va bene. 16 più allora 7 due infatti... bonus action rega no, per fare ma una bonus action puoi fare disengage no, rispondersi ho capito ma vuol dire che io ho fatto doppio movimento a gratis è quello l'ha usata per muoversi ha fatto la reazione è quello sì scusate ok infatti scusate. Sì è vero non puoi farlo no, questo turno no va bene e giusto. Scusate, va bene. Ora sta a andato. Questo è fu, però è giusto per morire. Ciao, Sceo. Disingaggio e cerco di raggiungere uno scoglio. Disingaggi e cerchi e ti muovi per raggiungere uno scoglio. Puoi farmi una prova. Calcola che da rissarti. Calcola che da Monaco mi muovo più veloce camminando. Poi non sto nuotando. Nuotandolo. Però puoi stare sullo scoglio. Detto questo, però ovviamente loro ti possono comunque colpire sullo scoglio. Sì, con un arpione, tipo una roba così, però no, pure devono... anche probabilmente arrivando lì. Sono grossi. Cioè, come sei arrivato tu, ci arriverà anche lui. Sì, no, nel senso che possono stare anche in acqua per colpirti. Questo voglio dire. Non è che ho molte alternative. Devi attaccare... Io infatti avrei fatto danni. È che ne ho due addosso. Quanti danni abbiamo fatto a quello che è morto? Più di 30. Sicuro. Vabbè, abbiamo fatto lì, 30 no, fuori vabbè, quasi. Rimango lì e attacco quello che è morto. Secondo me hanno sui 32-33. Sì. Col bastone, 7, quindi niente. Col colpo senza armi faccio 16. Beh. Ok. Tu gli avevi già fatto qualcosa prima, questi? No. Ah, 7 danni. E poi uso l'altro punto key di nuovo per schivare. Ok, 7 danni, giusto? Sì. Molto bene. Non colpiscono più. Va bene. Allora, dopo Sceo sta le bestie. Che vanno su Kratta. E fallisce uno. Ed è l'unico che è rimasto, giusto? Sì. E l'altro va su Sceo svantaggio, giusto? Esatto. Quindi fallisce un attacco. Fallisce un altro attacco. Vediamo un secondo. Fallisce un attacco. E fallisce un attacco. Wow. È andato bene il turno. Questo va punto qui non l'abbiamo usato più. Va bene. Dunque, era l'ultimo. Bestia sta a carta. Era l'ultimo che avevi? Trasferisco il marchio. Esatto. Su uno di quelli che è su Sceo. Almeno uno. Almeno uno dopo di te, Katta, no? Quello ferito da Sceo. Tu non sei tornato indietro. Sì, quello ferito da Sceo, così sì. Io cerco di tirare anche la sua attenzione. Sono dopo di te, Katta, io? Sì. Sì. Okay. E vediamo se riesco a colpirlo. Sì. Probabilmente ci riesco. Quindi, ma il marchio cosa ti fa? Il marchio no, mi infliggo un D6 in più. Ok. E ho vantaggio alle prove di. Stai andando su quello di Sceo adesso. Quello che Sceo ha ferito. Ok. E su di lui hai messo il marchio. Su di lui ho messo il marchio. E sprecherò un altro slot per fargli 2D8 in più. No. e punire il male che c'è in questa creatura immonda. Ma lui è buono e quindi non gliene frega un cazzo. La quinta invece permette di parare. Io per una compagnia di 5 stiamo combattendo. No, in realtà è un combattimento grosso, però tipo l'altro era... Sceo, comunque non ti puoi lamentare, perché il mio turno... E quindi adesso ne ha approfittato per un sito. No, tu gli hai dato fondamentale, ovvio. No, però sono 4. Però è calcolato su personaggi che fanno danni, ma noi abbiamo un bar. No, boh. Diciamo che probabilmente è un po' più forte di quello che... Arma. Non è per caso un non morto? No, non è morto. Anche se lo vedo un po' palledino. Ah, fai dei bei tiri con gli 8 tu però, eh? 23. 23 danni? Sì. Ok. Buono. No. Cazzo. Però... ne mancherà due danni. Salla puoi fare l'altro movimento per uscire fuori. Nei due turni, hai fatto l'ultimo set, il primo. Allora... io mi casto una cura. Tipo. Tu sei in questo momento in acqua. 12, 20... Mi casto comunque una cura. 40 allora. Okay. Se sei sott'acqua e da componenti vocali la vedo dura. Ok, sarei tornato indietro, ma... ma dato che lo faccio, lo so. Arrivi su? No, torno dentro. Ah, torni dentro? Okay. Gli piace nuotare, a quanto abbiamo capito. Il pesciolino. No, in realtà l'ho fatto perché così in questo round non ho preso danni. Sì, hai fatto bene. Potevi anche nasconderti dietro di lui. Puoi provare nasconderti, devo usare un'azione. Allora? Allora ho usato l'azione per curare tanto. Nient'altro. Tra le due. Puoi provare un sonno? No. No. Perché addormento voi. Ha fatto 23 danni in faccia. Ma quando sì, però c'è uno sceo con 4 punti ferite. È vero. Va bene. Allora faccio Dissonant Whisper su... uno dei due contro Sceo, cioè non quello ferito, tipo faccio un vocalizzo che è un accordo fastidioso per questa creatura. Su quello ferito o no? Non ho capito. No. Sceo ne ha due contro, no? Sì, uno ferito e l'altro no. Quanto è ferito? Manca poco, tipo pochi punti. Il prossimo turno se lo becchiamo muore. No, su quello non ferito. Capito, basta colpirlo e muore. Se lo colpisco io muore. Su quello, ferito. Non ho capito sulla teoria. Quello non ferito. Ok, posso. Deve fare un tiro salvezza su Wisdom. Sì, la CD è 13. Su Wisdom. Su Wisdom. Passa. Cosa succede? Che prende 12, 6 danni. 6 danni. Ok, e basta. Va bene. Dopo Salla sta l'Asi. Tu sei distante. Sì, dopo di me c'è lui, vero? Dopo di te c'è Sceo. Cosa faccio? La rischio su quello non ferito troppo e lascio finirlo lui là? Va bene, allora picchio quello che sta per morire. Secca seccabile, per tornare a frasi storiche. 17. Top. 17 per colpire. Sì. E allora. No. 2, 5 danni. Totale. No, scusami. Il furtivo l'hai messo. Ho fatto 1 e 1. Ah, cazzo. Hai tirato su quello. Quello ferito. Feritissimo. È morto. No. 5 danni non vai, la e faccio per nascondermi la stessa 1 bene, uno però devo ritirare no, uno più Halfling, sì. Halfling. Abilità 8 più 7 15, va bene, basta, bastoniamogli la testa sto stronzo. Lascio. Gli stacco la testa. Dai, che figo, però 1 e 1 si dà. Boh! Cioè, se va bene avrò 3 punti ferite questo. Ne aveva 2. Io non ci credo. È morto. Anche se faceva dire minimo. Grande Sceo. Ma io non ti ho detto quale colpire. Hai secondo punto. No, hai detto gli stacco la testa, questo stronzo ferito. Però gli stacca la testa. Beh, è ferito anche l'altro, Vez. Con un bastone, cosa gli vuoi staccare la testa? Tecnicamente Vez è ferito anche l'altro. Cacca, tra l'altro. Vabbè, tecnicamente ha detto lo stacco la testa. Che lo sbatte contro uno scoglio, una chiazza di sangue si propaga. E allora ho sentito, gli stacca la testa questo stronzo ferito, però anche l'altro è ferito. Sì, anche l'altro è ferito. Quindi magari intendeva l'altro. Però l'altro ha subito tipo ma sì, risolve il problema facendo un altro critico col pugno. Vabbè, è un 21 comunque. Bene. Ah, la freccia giusto non lo colgo. Come si è messa appunto ferita? 24. 4. Grazie al mio amico Cabe. 6 danni a quella. Ma scusa, non ti ha fatto la cura? Ah no, ho fatto la roba lì. 6 danni. Sei no, danni adesso ce lo gestisco io. Nel senso che lo manovro. No, non lo colpisco in stazione. Scegli, ti prometto che non ti colpiranno. Ma guarda che tocca loro prima di te. Appunto. Bravissimo. Adesso vedi. Allora. Ah, basta un colpo, sono morto. Prima che agiscano i due bestioni, da dietro di voi. Dai. Guardi, è una donna. Beh, li killiamo easy. Senza l'aiuto emergono 4 pescatori. Dai, ma li killavamo easy. Perché devi toglierci la gloria? Oh, ma quanto è che fa uno? Nessuno oltre a quei pescatori sa che sorte avranno questi pescatori. Dai, però questi, dai, veramente. Questo è il master stronzo che toglie la gloria ai giocatori. Ma rega, cioè, diciamo che. Quanto mancano? 2 persone? Sì. Due mancano tutti incantesimi e tutte le ispirazioni bardiche. Sì, ma Scio sta per morire. Sì, ma non possono colpirlo. Oh, che novità! Mamma mia, ne parli veramente. Io sta cosa non la sopporto. Dovresti vergognarti. Se volete, non li faccio apparire. Però. Possono apparire, spaventarsi e scappare. Guarda che è una cosa che a me piace nel GDR: fare i personaggi. Appaiono 4 pescatori. Vedi, comunque io questa volta la perdono. Aiutiamoli! Puoi anche ucciderli? Magari in realtà. Vabbè, in realtà ce l'avremmo fatto. Il primo è stato devastante. Sì, però abbiamo tremato un po', ma ce l'avremmo fatto. Massimo andava per più, effettivamente, ma poi eravate vicini a stabilizzarmi. Scio, il primo che ti attaccava gli toglievo un D6 al tiro per colpire. Sì, cambia poco. Se uno solo. Sì, no, hai ragione. Ma anche fossi stato abbattuto io, non ti può fare. Non è ancora finito il combattimento. Uno dei pescatori riesce. Sì, però questo è palese. Perita, mancanza di fiducia. Questa è triste. Meglio così. Mancanza di fiducia. Do un turno in più per sopravvivere. Mancanza di fiducia. Ma se non lo faceva morire. A sto giro la ce l'avremmo fatto. Massimo andava giù e poi doveva fallire 3 tiri. Sì, ma no, eravate voi lì a stabilizzare. Io ho tutte le cure. Allora, i due cosi attaccano i pescatori e ammazzano 2 pescatori. Era per farci avere sulla coscienza la vita di. Vabbè, magari pescatori. Questi pescatori hanno le tasche piene di monete. Dopodiché, infatti, guarda la scranta. Vai. Quello su cui c'era il marchio è morto. Sì. Ma il pescatore dici io? Sì, il pescatore, quindi lo trasferisco su quello ferito. Attacca il pescatore, okay. Esatto, è quello che stavo dicendo prima. 22. Sì. E quindi gli faccio. Tanto male. Buono. 12 danni. Muore. Dolore. Ci provo. Ecco Sallino, vai. Ora io perdo il turno, non faccio niente. Ma perché? Dopo Salla. Si muove. Tocca a me. Cazzo, il mio prossimo personaggio. No, aspetta, Vez, mi cura. Ah. Casto una cura su mi di curo, me. Ha detto mi curo, sì. Hai detto mi curo. Ma è casto una cura su di me, sì. Non sei ferito. Sì. Ho 13 punti prima. Va bene, dopo Salla. E attacco quello che è su Scio. Sì. Sempre 17. Sì. Vediamo di fare un po' di più di prima, magari 6, 12 e 15 totale, massimo. 15? È ancora vivo. E dopo la sta Sceo. Aspetta, mi nascondo di nuovo. Sì, sono che uno devo ritirare. Che sfiga. Dall'altro lato. 5. Ho fatto un po' di meno, 12. Ok. Devi sempre rifare uno. Vai, lo finisco e gli stacco la testa. Vabbè, 17. Sì. Muore. Aspetta, è una soddisfazione, non tiro mai danni io per uccidere, la soddisfazione, avevo un danno l'altro tuo, ma cosa è? Secondo colpo. Stavolta però non potevo fare di più. Massimo della stint, puoi fare l'altro colpo sull'altro, che è sì, sì, è abbastanza portato, sì. Allora sì, stavolta non potevo allontanarmi di qualche passo. Lì devi, sì. Beh, tanto me ne catta. Non sei più ingaggiato adesso. Tanto me ne catta. Forse uccide Fiona per la mia smacco. Oh, come nobile 21. Vedi? Sì. La nobiltà aiuta i cocchieri. Beh, ci mancherebbe. Anche perché in realtà io non so quanto tu stia bene o no. Sei sì. Quindi, dal mio punto di vista, c'è non glielo chiedo se muore. Situazione. Se vedo che galleggi senza notare, qualche sospetto mi viene. Boh, magari è una proprietà dell'acqua. Super pescatori. Adesso non uccidono i pescatori. No, ma è veramente una mancanza di fiducia enorme questa. Io non ho ancora pagato delle prostitute, potrei approfittare di questi pescatori. Che schifo. Sì, sì, lo faccio. Questo è il tipico espediente per evitare. Ho uno mangiato e l'altro ucciso da questo coso. Ottimo. Se praticamente sono arrivati per prendersi la botte tutte le nostre, basta. Sì. E dopo sta a Salla. La nostra carta. In poche parole hai evitato di colpirci. Beh, per due. Trasferisco il marchio. Wow. 21. Sì. Vittoria. Grande. Baldo. 8 danni è morto. No. Sta a Salla. Io fossi in te mi curerei. Scusa, ne rimane uno solo? Sì. Cioè, io non ho usato un cazzo in sto combattimento. E... hai avuto grandi doti di fuga. Beh, in realtà... ho agito tutti i turni al meglio, però non ho usato un cazzo perché non è servito a niente. Aspetta, se non curavi Kat, in realtà... Sì, saremmo morti, sì. Sì, ma... Al primo turno. Incantesimi. Comunque, ne rimane uno solo e gli dico, ehi, ma... Tua moglie è pesce dalla parte di sopra e uomo dalla parte di sotto, che per loro è un'offesa grave. Deve fare un tiro salvezza su Wisdom. L'unica cosa che non parla la tua lingua. Beh, parlerà al comune. Non me la dà qua. Abissale acqua mi dà come dire. Vabbè, allora non se ne accorge neanche. No, però sta la battuta. Lui ti guarda come un pesce acquoso enorme può guardare un piccolo robo nell'acqua. No, ma non si accorge neanche che parlo con lui, se non... Se non quando capisce, cosa deve fare? Niente. E subisce? Niente. No, non parla la mia lingua, non capisce quello che gli dico. Ah, non hai fatto l'incantesimo. Ok, questo. E vabbè, dopo Salla sta l'as. Tiriamo per colpire. 20 totale. Sì. Bello. 3, 6. 6 danni, va bene. È morto. No. Ritiro. Ehi, 20 di dado sei più. Sei già nascosto un po' troppe volte di questi scogli. Però sono 20. Quindi, mi nascondo dietro un altro scoglio. No. Però puoi andare se vuoi oltre, vedi che il cunicolo prosegue, se vuoi. Nasconderti sei già nascosto due volte, da un lato, uno dall'altro, uno dall'altro. Allora, io comunque ho fatto l'attacco, no? Ho fatto l'attacco, mi sposto e azione bonus il pescatore. No, lo so, è per non farti nascondere sempre a questa parte. Appunto, mi muovo e poi si nasconde. Ho comunque un'azione di movimento del nascondere. No, lo so, però non ti puoi nascondere da uno che sta guardando. Parte. Ma non sta guardando. Se vuoi puoi andare indietro. Puoi andare ancora più indietro. Vabbè, se no mettiti semplicemente dietro. Se no mettiti semplicemente a copertura. No, va bene. Dopo l'as sta... comunque adesso sei lontano da lui. Io che la spiego. L'ennesimo. Ovvio. No, sì, ce la faccio. 10, aia. No. 20, qualcosa. Cioè, col bastone era un becco, con i pugni. La mano sinistra ormai che 4 danni. Ok. C'ho la mano sta sinistra lui, che non ne ha più, però il bastone è intatto, illeso. Va su Sceo. Ecco. Quanto hai Sceo di conservatura? Quanto hai fatto? Tu guarda, hai 16. Allora, no, ti becca. Quanto ha fatto, Vez? 18. Oh, idiota! Ah no, però se non mi capisce non so se posso farlo. Aspetta, Ma idiota era il master o il PNG? Ma lo puoi fare... Sì, penso di sì, ma... ma lo puoi fare... Sì, lo puoi fare a quando ti pare, giusto? Sì, però mi sa che se non mi... Non mi capisce, non... Cos'hai trovato il modo di... di evitare le mezzo del bardo. Poi? Posso fare danni o no? Aspetta che deve controllare se può agire, cioè se cioè, questa cosa aspetta, funziona. Posso fare danni o posso uccidere Sceo? Fai bene la domanda. Beh, ah, sì, in realtà beh, qua non mi pare che lo dica. Cos'è questa roba? Cutting Words. Ok. Dice cosa che dice? La creatura è immune se non mi può sentire o se è immune a essere charmata. Sarebbe bene anche è come nascondersi in piena vista. No, però è in acqua. Non lo so, vabbè, facciamo che... È in acqua ma non sott'acqua. Oddio, loro potrebbero, volendo, ma però... Sceo, scusa, per colpire Sceo cosa fa? Da sott'acqua mezzo, così? Vabbè, diciamo che volendo sì, tipo... Cosa fa, così? Allora mordono, salla, mordono. Ho capito, ma la testa deve essere fuori dall'acqua per colpire Sceo. È sullo scoglio. Lo squalo, morde anche l'acqua. Ma Sceo sullo scoglio? Sì, mordi in acqua se sei in acqua. Tu no? Sì. No, non è salito? No, è andato in corpo. No, comunque ti può sentire lo stesso perché il combattimento va un po' fuori, un po' sotto. Non ti preoccupare. Comunque Sceo... devi tirare un D6 e toglierlo al risultato. Un D6 e toglierlo al risultato. Va bene. 8, quindi tolgo 4 a un danno da... Per colpire? Ma non hai danni, al tiro per colpire. Ah, ok, allora non lo colpisce. Però il secondo attacco lo può fare comunque. Sì, sì, sì. Il secondo attacco ti colpisce. Si fa un modo c'è sempre, tanto. Beh, quindi sei comunque riuscito a deviare un attacco solo con la forza del tuo chiacchiere. Cioè, chi farà il barba? Vabbè, ma non... il problema è che tutti si cagano sotto, ma è quasi impossibile ai crepi. Esatto. Sì, devo sbagliare di lato, ma poi dovrei essere da solo. Invece adesso ci siete voi a aiutarmi. L'unica cosa è che non so esattamente se vado a fondo. È sempre quello col marchio? Spero di andare a fondo, perché se galleggio vuol dire che sono già morto. Perfetto. Allora, 23. Sì. Direi che è in bilico. Sì. Sì, no, era molto, non si capiva. 13 danni. Muore. Vedi, è una parte da me. Aspetta, prendo... muore lui o... specifica, è importante. Vabbè, qui è perché ho voluto strafare. Prendo dei trofei dalle loro carcasse. Ok, prima aiuti il tuo amico che sta affogando, svenuto. Sono delle priorità. Tipo quei Sceo ti curi di... Cosa? Dei bracciali. Io trovo qualcosa sui pescatori. Sceo hai 14 punti feriti. Ok, io taglio la pesca. Io vado a 14 PF. Ne li prendo come trofei di sangue. Va bene, rega, potremmo concludere qua. Poi la prossima volta sistemiamo un po' il tutto. Io sono rinato. Mi ha dato una cura da 14. Sei rinato, bene, bravo. Sì, comunque, tranquilli, ho comprato la cartuccia nera dell'inchiostro da me stampato, quindi schede ne posso fare qualche per ora. Va bene così. Vabbè, perché ho voluto, perché tanto ero tranquillo. Vedi, questi sono gli investimenti che contano. Invece di comprare le pozioni nel gioco, si compra un inchiostro per la stampante, così. Cioè, in realtà io di incantesimi ne avevo ancora. Va bene, io direi di salutare gli amici di Facebook e del podcast che ci hanno seguito finora. Avete assistito al terzo episodio di Coloni. E... abbiamo un'ottima media di schede personaggi. Abbiamo rischiato. No, beh, dai. No, qua no, ero tranquillo. Diciamo che per sicurezza. tra di loro contro uno di noi. No, è anche senza... Beh, in realtà non ti sei fidato qua, Vezma, secondo me hai sbagliato, perché qua li stupravamo e basta. Beh, vedremo la prossima volta quando no, si chiederà e parleremo. Ma qui forse sì, forse no. Sarei no, anche... non c'era il forse no, perché lui perché Show per morire doveva prendere altri 4 danni una volta a terra. No, il problema era gli altri, se beccavano con tutti gli altri, se buttavano giù anche Katta poteva essere un po' un problemino. Vabbè, gli stava anche abbastanza bene. Però sì, se fai un turno come quello che hai fatto all'inizio che c'hai massacrato. No, è che voi all'inizio non facevate praticamente mai danno e quindi un po' mi sono preoccupato. Sì, però cioè, capisci che è abbastanza difficile crepare. No, il problema è che se li hanno tutti sotto non vi recupero più, capisci? Ma mancavano due persone quando sono arrivati i pescatori. Lo so, ormai avevo fatto questa scelta. D'altronde il tizio aveva detto che li avrebbe chiamati. Raga, dovete avere pazienza, io devo ancora capire un po' come va, so di aver fatto delle cazzate, no, però... Il bilanciamento degli scontri è abbastanza difficile. Prima o poi... Io ho la media di 2 scontri, 2-0 PF, qual è il problema? Certo. Cominciamo a sospettare. No, il problema è anche che voi partendo già dal terzo livello, i mostri che posso farvi incontrare non sono tanti. Tutto qua. Vabbè, comunque adesso vediamo. E le questo era il terzo di Coloni. Vi ringraziamo per averci seguito. Vi diamo appuntamento alle prossime sessioni. E ci potete seguire come sempre sulla pagina Facebook Tycoons & Dragons, sul blog ribgdr.wordpress.com e il podcast di RibGDR, oltre che sempre anche la pagina Facebook, sempre di RibGDR. Grazie a tutti e buonanotte e un po' presto. Ciao. Ciao.